A tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Possiamo chiamarlo, se volete, se ne avete voglia, se vi piace, il weekend delle risposte con l'Inter che ha risposto alla sua crisi e alle ultime due pessime partite ieri sera contro il Chievo, sebbene a fatica. Con la Roma che ha risposto alla sconfitta subita interna con la Juventus vincendo a Udine. Con la stessa Juventus che ha detto, che ha ribadito quanta voglia di Champions League abbia in una partita abbastanza strana, anzi molto strana, oggi all'ora di pranzo con questa doppia rimonta sul Genoa, Genoa secondo me un po' in versione balneare almeno in difesa, almeno nel secondo tempo. Genoa che appunto per due volte è passato in vantaggio con un'autorete di Bonucci, poi pareggiata da un'altra autorete su tiro di Pepe, poi Floro Flores di nuovo, pareggio di Matri, gol decisivo dell'ex Luca Toni. Juventus batte Genoa 3-2. Adesso stiamo aspettando altre risposte per il campionato, sta maturando quella di Bologna, del Napoli. C'è anche quella della Lazio e aspettiamo a chiudere il circolo la risposta del Milan, che sarà quella più importante nella lotta a scudetto questa sera a Firenze in un posticipo tutt'altro che semplice per i rossoneri. Non sono arrivati invece, tra poco ne parliamo, dalla Malesia risposte positive per la Ferrari, perché Vettel sembra davvero imprendibile in questo avvio di mondiale di Formula 1. Seconda corsa, secondo regalo per Vettel, che vince il Gran Premio in Malesia davanti a Button e ad Heidfeld, quarto Webber, quinto Massa, sesto Alonso, peraltro fermato dopo un contatto con Hamilton mentre era in corsa per il podio. Risposte anche le vostre. 800 24 00 24, il numero verde, vi do i parziali e poi mi collego subito con Dario Ricci che ci fa un quadro più preciso dei risultati, anche perché c'è un gol importante in questo momento che è quello della Lazio che raddoppia sul Parma dopo Hernanes. Mi pare sia Floccari, ma tra poco Dario Ricci ve lo racconta. È Floccari l'autore del gol del raddoppio che mette a sicuro il risultato 32esimo di gioco. Bari Catania sono sull'1-1, il Napoli sta vincendo 2-0 a Bologna, Cagliari Brescia 1-1, Lazio 2 Parma 0, il Palermo del Delio Rossi, il primo Palermo del Delio Rossi bis, sta vincendo 2-0 contro il Cesena con grande gioia mi pare sulla faccia dei giocatori stessi. Il Lecce, questo è un risultato importantissimo, in coda, sta vincendo 2-1 a Genova contro la Sampdoria, una partita sportivamente abbastanza drammatica, anche perché mi pare che Sampdoria e Parma si confermino come le due in maggiore difficoltà in fondo alla classifica. Dario Ricci, nostro inviato al telefono oggi. Ciao Dario. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Partiamo subito dal raddoppio laziale che stavi anticipando, il 2-0 siglato da Floccari. C'è stato un bel lancio in verticale di Hernanes che sembra ispirato così come nella prima parte del campionato, e lo splendido altrettanto bello stop a seguire di Floccari che si è trovato a tu per tu con Mirante, lo ha battuto facilmente da non più di 5 metri di distanza. Per quanto riguarda la partita di Genoa Sampdoria Lecce, da segnalare che dal 26esimo del secondo tempo la Sampdoria è in 10 per l'espulsione di Mannini per doppia ammonizione dopo un fallo su Jeddah. Molto bene, dunque questi i parziali, mentre manca circa un quarto d'ora più recupero alla fine di queste partite del pomeriggio, con il Napoli che sta dominando a Bologna. È chiaro che gli stimoli e le motivazioni sono molto differenti per le due squadre. Napoli in vantaggio con un giocatore che nemmeno doveva giocare, cioè Mascara, per tutta la settimana si è detto, sapete, l'assenza di Cavani che è in tribuna a fare un tifo infernale per i suoi, come è bello e giusto che sia. Per tutta la settimana si è detto, ma chi gioca al posto di Cavani? Allora Lavezzi prima punta, ma gioca Mascara e non Zuniga alle sue spalle insieme a Danzig, come era stato detto alla vigilia. Dunque Napoli sta vincendo 2-0 con questo gol di Mascara, con un rigore netto trasformato Danzig al 46esimo del primo tempo, con Lavezzi a sua azione di contropiede atterrato dal portiere Viviano. Napoli ha chiesto anche l'espulsione di Viviano, bravo lì è stato l'arbitro a non eccedere e a dare questo rigore che comunque mette al riparo e al sicuro per il momento il Napoli, seguito oggi da una marea di tifosi, come sapete 15.000 napoletani, si dice, al seguito della squadra. E tra l'altro io ho anche un messaggio di Davide, che 349-238-6666, questo è il contatto, che segnala però una, insomma, il messaggio è questo: a Bologna pericolosa mescolanza di 600 tifosi ultranapoletani nei distinti con i bambini delle scuole. Questo per la cronaca, me lo scrive Davide. Ma poi con Bologna torneremo a collegarci. Intanto mi collego subito con Mario Poltronieri, che saluto, per questa mancata risposta della Ferrari a Sepang. Ferrari che parte con l'handicap, caro Mario, in questa stagione. Prima di tutto buongiorno a tutti, ciao Carlo. Io sono nella categoria dei blandamente e leggermente ottimisti, perché rispetto alla gara precedente la sensazione era che potevano comunque conservare, diciamo, il terzo posto rispetto al quartetto dei forti, dei quali però comincia a mancare sia per un verso Hamilton, perché si nevolisce per le gomme, sia Webber perché sente il peso del campione del mondo. Per cui il problema della Ferrari, sì, c'è un problema di fondo generale sicuramente, ma il problema della Ferrari in questo caso specifico della stagione è di riuscire a fare dei tempi che le consentano nello schieramento di partenza di essere un po' più avanti, perché si è visto che poi all'atto pratico quelli che sono i primi posti riescono, se non hanno qualche carenza nel mezzo, ad essere poi tra i primi. C'è da notare una cosa interessante comunque, che oltre all'eccezionale vena di Vettel, da notare che i due piloti che hanno conquistato il podio, il secondo e il terzo posto, e cioè Button rispetto a Hamilton e Heidfeld rispetto al purtroppo poi ritirato Petrov, eccetera, sono piloti che hanno una guida meno stimata ma molto più morbida, che probabilmente si adatta di più a questi pneumatici che vanno cambiati così spesso. Ti dirò francamente che la gara di oggi comunque mi è sembrata più un videogioco che una gara, perché la dovizia, che a me personalmente piace ma che per uno spettatore normale mi sembra assurdo, la dovizia di dati che c'era sul teleschermo mi ha fatto pensare che probabilmente oggi, così come si fa per il commento delle gare, per guardarle bisogna avere uno che guarda, l'altro che legge e il terzo sì, che riesce a mediare su questi dati. Sì, ci vuole una laurea in Nigeria più o meno, Mario, però tant'è. Ma senti, questo contatto tra Alonso ed Hamilton è il sintomo del fatto che Alonso è davvero al limite con quella macchina, che vorrebbe ma non riesce ma non può? Lì ha fatto un errore di foga che gli è stato penalizzato tra l'altro con 20 secondi, che non gli è comunque costato un posto perché come Yashi era più indietro. No, ma lì si è visto chiaramente nelle immagini, lui ha tentato sullo slancio, convinto che l'altro fosse abbastanza veloce, pur sapendo, ma non ricordandolo in quell'attimo, che stava andando molto più adagio, sì, perché aveva il problema delle gomme Hamilton. Quindi sì, è stato proprio quello che si chiama un incidente di corsa, che non so perché sia stato penalizzato. Secondo me, sai, sono quei famosi, nel caso del calcio, quei cartellini gialli che si potrebbero dare o no. Sì, tornando invece al discorso Ferrari, Mario, in questa stagione, come nella scorsa, si ricomincia rincorrendo, ma questo perché accade? Cioè Vettel da campione del mondo si porta su quell'onda con una Red Bull che comunque resta una macchina molto competitiva. Le McLaren in questo momento vanno più forte della Ferrari, ma è possibile che si cominci sempre in salita un mondiale? Ma sai, si comincia in salita intanto perché in un'antica tradizione della Ferrari si è sempre cercato di fare tutto in gran segreto. Io mi ricordo che ai tempi delle prove libere la Ferrari cercava sempre di provare da sola, perché si convinceva che poi andava bene. Secondo me la Ferrari stanno facendo anche un errore di comunicazione, perché appunto consentono ai piloti, Alonso è molto più preciso e molto più equilibrato, ma Massa per esempio prima della gara è di dare la sensazione, e il pubblico che legge i giornali ci crede, che sì, ormai siamo arrivati, va tutto bene. La realtà verità è che la Ferrari, da quando ha perso Schumacher e Rosbrone, eccetera, eccetera, eccetera, non è riuscita ancora a creare uno staff tecnico che abbia la competenza e l'esperienza che hanno i mostri sacri, sì, che stanno guidando le altre squadre, per cui bisogna purtroppo dargli del tempo. Sì. Non bisogna esagerare appunto con queste speranze eccessive. Io ti dico, rispetto alla gara precedente, trovo che un piccolo passetto c'è fatto. Adesso si tratterà di vedere, perché insomma, il problema di fondo è che qui manca aderenza e manca lo sfruttamento delle gomme. Oggi le gomme bene o male sono andate come quelle degli altri, diciamo tre fermate a testa, quindi va bene. Allora, innanzitutto qual è il problema numero uno? Andiamo più forte in prova. Certo, questo è naturale, basta guardare, l'andamento delle prove a partire dal venerdì. Mi domando quando finirà l'inseguimento. Quando la prossima c'è già la Cina. Sì. E quindi credo che sia ben poco da cambiare. Sì. Non trovo che sia un circuito favorevole. Quando poi ci si avvicina all'Europa, probabilmente un po' perché si respira l'aria di casa, un po' perché c'è più facilità di mandare pezzi di ricambio in andata e ritorno, eccetera, eccetera. Sì. Io penso che possa crescere. Comunque, allo stato attuale, il quartetto Red Bull McLaren è effettivamente anche come uomini, certo, valido, certo. Perché Massa è un bravissimo ragazzo, però non è uno su quale si possa fare conto di una continuità di rendimento. Alonso è molto bravo, giustamente tu hai ricordato, forse è stato un eccesso perché ha in mano una macchina che non sente, ma no, non è quello. Alonso per me è un professionista eccezionale, quindi sa valutare benissimo l'automobile. Mi è piaciuta moltissimo l'altro giorno quando ha detto, come se avesse detto purtroppo, dice: noi siamo condizionati dall'aerodinamica. È vero, c'è troppa aerodinamica, si tratterà di cose, ma lui è sicuramente uno che può fare il risultato, non è particolarmente irruento. Certo, anche lui non consuma le gomme come le consumava Schumacher, però siamo lì, ormai siamo alle sfumature. Come ti dico, questo cambiamento delle gomme, tutto sommato, devo dire che io non, insomma, io sono nella teoria antica, cioè le gomme vanno montate all'inizio, poi alla fine smontate e buttate alla fine, non c'è dubbio. Diciamo che tutto sommato questa specie di videogame o social videogame, come lo chiamerei io, funziona, oggi ha funzionato, lo spettacolo c'è stato, e certo non bisogna caricare la Ferrari di troppe responsabilità, perché ma questo diventa un po' complicato, perché l'attesa, perché più passa il tempo, più questa rincorsa è lunga, più le frustrazioni che insomma i tifosi a Ferrari hanno accumulato anche nel finale stranissimo della scorsa stagione, insomma è tutta pressione in più che hai sulle spalle quando vai a correre. Mario, ti ringrazio, tanto ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio. Ciao, grazie a Mario Poltronieri. Adesso c'è il traffico, subito dopo torneremo alle cose del calcio, anche se non mi pare ci siano altri gol da segnalare rispetto ai risultati che vi abbiamo detto, ma ci sono diversi episodi che poi Dario Ricci ci chiarirà. 800240024, se volete cominciare a intervenire, a prenotarvi, a parlare con noi, traffico. Giulietta, l'auto più sicura della categoria, col nuovo motore diesel JT DM2 da 140 cavalli. Vi presenta Strade in diretta. Sulla 8 Milano-Varese si formano code per un veicolo fermo in avaria tra Lainate e l'innesto per la 9 verso Varese. Aumenta il traffico sulle autostrade della Liguria per i primi rientri del fine settimana. Verso Genova rallentamenti sulla 10 tra Finale e Savona e code tra Varazze e il bivio con la 26 dei trafori. Nella stessa direzione code per traffico anche sulla 12 tra Genova Nervi e il bivio per la 7. Infine vi ricordo il numero verde per le vostre segnalazioni sul traffico: 800 08 36 22. Noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Tanto si è appena chiusa anche la Parigi-Roubaix, vi do il nome del vincitore, edizione numero 109 di questa meravigliosa, per me quanto anacronistica, per tutti quanti, corridori compresi, corsa grande classica del Nord. Il belga Johan Venstrummen ha vinto per distacco l'edizione di oggi. Torniamo al calcio. Dario Ricci, che succede sui campi di A? Allora, risultati immutati rispetto all'ultimo collegamento, Carlo, ma tanti episodi da segnalare, a partire dal colpo di testa di Palombo a Genova, bloccato però da Rosati, e quindi Lecce che si salva, sempre in vantaggio per 2-1 sulla Sampdoria, e più volte però i giallorossi hanno sfiorato il terzo gol in contropiede, ricordiamolo, anche in superiorità numerica per l'espulsione di Mannini. Campo principale di Bologna, Napoli sempre in vantaggio per 2-0, ma Felsinei due volte vicini al gol al 36esimo, grande occasione per Di Vaio, pescato tutto solo da un cross sulla destra sul secondo palo, ebbene stavolta il bomber rosso-blu facilecca e manca la facile occasione. Al 42esimo, tiro da fuori di Perez, splendida risposta in calcio d'angolo di De Sanctis. Lazio-Parma, sempre doppio vantaggio per la Lazio, ma al 38esimo bella punizione di Giovinco, ottima risposta di Muslera. Per quanto riguarda Palermo-Cesena, Cesena in 10 per l'espulsione di Von Bergen al 30esimo del secondo tempo per fallo su Kurtic, e poi l'arbitro Peruzzo ha espulso anche il Cesenato San Marco per proteste. San Marco però era in panchina. Sì, sì, episodio piuttosto curioso. Sono state anche proteste della Sampdoria per un fallo molto duro, mi pare, di Oliveira su un giocatore doriano, con i giocatori della Sampdoria che hanno chiesto sanzioni più pesanti che non sono state concesse, accordate. Partita molto tesa quella di Genova, come è normale che sia del resto. C'è il Brescia che secondo me, con il Cesena tra quelli laggiù in fondo e con il Lecce che oggi sta facendo un risultato fondamentale, Brescia, Cesena e Lecce mi sembrano squadre che hanno facce da salvezza, mentre Sampdoria e Parma molto meno. Questa è la mia sensazione. C'è un episodio però da rosso, mi pare, a Cagliari, no Dario? Sì, a Cagliari è stato espulso in questo istante Eder, perché credo proprio per simulazione, perché Eder è entrato in area di rigore, è entrato in contatto con un rosso-blu, ha protestato richiedendo il rigore, sì. Ma l'arbitro è intervenuto immediatamente espellendolo per simulazione. Adesso parapiglia in campo, chiaramente i bresciani non ci stanno, ma così, senza aver visto la moviola, la prima impressione è che l'arbitro abbia letto bene questa situazione, Carlo. Sì, altro tema della giornata è quello che poi affronteremo naturalmente anche con voi se ne avete voglia, 800 24 00 24, numero verde, quello della giostra degli allenatori che è in pieno divenire. Sapete che oggi Degli Orossi festeggia il suo governo bis al Palermo, con giocatori che mi sembrano molto, molto motivati, vi dico la verità, almeno a leggere così il linguaggio del corpo, con Cavasin che potrebbe anche rischiare, altra storia di elastici, in caso di ennesima sconfitta della Sampdoria. Potrebbe rischiare e potrebbe magari tornare Di Carlo con pratica ormai consueta. Io vi voglio far sentire, mentre aspettiamo con Dario Ricci che ci dà tutti i particolari la fine delle partite del pomeriggio, voglio farvi sentire qualche voce, a cominciare da quelle più fresche, cioè quelle di oggi a Torino, con questa vittoria in doppia rimonta della Juventus, una Juventus che vuole crederci ancora, i distacchi sono ancora pesanti, la Lazio non molla nulla. Le altre tre sono naturalmente fuori gioco, fuori portata, irraggiungibili per i bianconeri. Però, insomma, tre sconfitte, tre vittorie consecutive, il colpo di Roma, oggi anche questa partita molto, si era messa in maniera molto strana, molto complicata, che è stata risolta poi alla fine dei bianconeri. Beh, fanno bene a sperare, che tanto non costa nulla. Gigi Del Neri, dopo la vittoria col Genoa. Abbiamo lottato molto per ottenere questo obiettivo. Ce lo meritiamo, i ragazzi ce lo meritano, e devo dire che sono stati bravi sia a Roma, come si dice adesso, dove hanno giocato una partita molto più attenta, però si giocava in notturna, sia oggi con una squadra abbastanza scorbuta, ha trovato il gol subito dopo 5 minuti sotto gol. È stato difficile ribattare, però la pazienza, non concedere niente a loro nell'arco di quasi 90 minuti, è stata la forza della mia squadra. Questo era Gigi Del Neri, e io invece, mentre c'è Curci che va in Sportiva Sampdoria, che va in attacco su un'azione da calcio piazzato, va in attacco alla ricerca di un gol del pareggio che però è vana, perché in mischia riesce a sbrogliare la difesa del Lecce, qui 5 minuti di recupero concessi e quasi 3 se ne sono andati. Volevo farvi sentire invece un'altra cosa molto divertente, un simpatico, perché non tutti credono alla possibilità di rimonta della Juventus. Ad esempio non ci crede l'allenatore che oggi è stato battuto dalla Juventus, cioè Ballardini. Voglio far sentire questo simpatica battuta, scambio di battute rapidissime e molto incisive tra lo studio post partita di Sky e l'allenatore del Genoa, Ballardini. Sentite un po'. A proposito della Juve, rapidissimo Ballardini, poi la lasciamo ai colleghi, può centrare l'obiettivo Champions che Juve ha visto oggi? No. Non lo centra? Secco. Questa è la risposta. No, ho detto che non lo può, la risposta è no. Ah, va bene, grazie. Rapidissimo, più di così è impossibile, più incisivo di così è impossibile, però a me, non so come la pensate voi, piace di più un Ballardini che dice no, questi in Champions non ci vanno, secondo me, di tanti giri di parole, però abbiamo perso contro una grande squadra, ancora obiettivo Champions, no, la Juventus in Champions League, secondo Ballardini, non ci può andare. Dario Ricci invece con una Sampdoria che sta remando per non andare in Serie B. Sì, ma è Lecce che è andato vicino al 3-1 in modo assolutamente clamoroso, perché Curci, come avevi sottolineato Carlo, si era spinto in attacco e allora c'è stata l'occasione di un contropiede per i salentini. Donati ha recuperato il pallone all'altezza del centrocampo e ha tentato un gol che mi viene da dire quasi alla Stankovic, visto l'abitudine del centrocampista nerazzurro di tirare da centrocampo, spesso prendendoci. Diversa invece la sorte del tiro di Donati, che si è spento sul fondo, poi l'ultimo a Santo Doriano, ma in questo momento arriva il fischio finale. Game Lecce over. 2, Sampdoria 1 a Genova, e adesso mamma la classifica mia è veramente grigia per i doriani. Mamma mia, la Sampdoria dunque perde in casa con il Lecce 2-1 ed è un risultato finale. Si gioca ancora a Palermo, 6 minuti di recupero concessi, ancora tutti da disputare, ma la partita mi sembra sarà finita. 2-0 dunque per i rosanero con i gol di Kurtic. Ogni volta scopro nel Palermo qualche giocatore nuovo e diverso nel mazzo dei giovani che Zamparini ha messo a disposizione di Rossi, che Rossi stava allevando al di là delle amnesie difensive, secondo me in maniera ineccepibile, molto divertente. Oggi torna a marciare il Palermo. Kurtic e Piniglia, dunque, gli autori dei gol di questo ancora ufficioso, di questa ancora ufficiosa vittoria del Palermo sulla Cesena. La Lazio conduce 2-0 sul Parma, ma credo che sia finita, no Dario? Credo si stia giocando solo a Palermo o mi sbaglio? Guarda, devo dire che ancora non ho avuto conferma ufficiale, sì, della conclusione della gara dell'Olimpico. L'aspettiamo comunque. Un attimo. Anche qui si tratta di mettere il sigillo notarile sul sigillo arbitrale sulla finita. Mi segnalano in questo momento la partita di Roma. Dunque la Lazio batte 2-0 il Parma, e se Roma e Juventus hanno qualche mira e qualche intenzione di quarto posto di Champions League, devono fare i conti con la squadra. Con la squadra romana. Bari Catania 1-1, i gol di Gazzi e Maxi Lopez nel primo tempo. Il Bologna ha perso in casa con Napoli, anche questo è risultato finale oltre che importantissimo per la classifica. Dunque se l'Inter risponde, il Napoli certo non molla, riscavalca e quel secondo posto se lo tiene in mano, e si metterà questa sera il Napoli, 15.000 napoletani, Caterina Balivo che abbiamo sentito ieri, un sacco di gente si metterà alla finestra televisiva a guardare la partita del Milan, in cui rientra, come sapete, Ibrahimovic con Compato, si accomoda in panchina a quanto pare Robinho, e sarà una partita molto difficile per il Milan. Io credo sarà una serata chiave per la corsa scudetto. C'è ancora un gol, è il tempo di darlo anche se la partita non è finita. Dario Ricci. Cesena che accorcia le distanze proprio a Palermo, c'è stato un calcio d'angolo per i romagnoli, nessuno ha deviato di fatto in maniera decisiva il pallone, che è arrivato sul secondo palo a Parolo, che di destro ha battuto Sirigu. Mancano ancora 3 minuti alla fine, quindi il Cesena è in 10, adesso va all'assalto per strappare magari, chissà, un insperato pareggio. Io ringrazio Dario Ricci, che ritroveremo poi in Palaspicchi. Le partite sono praticamente chiuse, 1-1 tra Bari e Catania, il Napoli vince 2-0 a Bologna, Cagliari-Brescia 1-1, Lazio batte Parma 2-0, Palermo-Cesena 2-1, ma si gioca ancora, la Sampdoria ha perso in casa 2-1 con il Lecce. Subito dopo il GR naturalmente cominceremo a parlare di tutti i temi di questa giornata, anche con voi, 800 24 00 24, a dopo. Ecco che torniamo dunque, sempre con Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia, sempre con l'idea di arrivare fino alle 19 a parlare con voi di questa giornata di sport che ci ha detto molto e che molto dovrà ancora dirci, perché fa un certo effetto, no? Leggere la classifica, leggere quella coppia in testa, Milan-Napoli, anche se grosso modo un effetto ottico, perché come sappiamo per effetto del doppio confronto il Milan comanda sempre il campionato, doppia vittoria 2-1 al San Paolo e 3-0 a San Siro. Dunque, però i punti sono gli stessi e il Milan deve rispondere al Napoli la domenica, il weekend delle risposte, come vi ho detto prima. Fa una certa impressione anche scoprire che così, all'improvviso, il Palermo di Delio Rossi è tornato, perché è incredibile il finale di questa partita. Vi avevamo lasciati prima con un parziale, Palermo 2, Cesena 1, ma la partita non è finita così. Prima di un riepilogo totale dei risultati, della classifica, dei marcatori, tutto quanto, io vorrei farmi raccontare da Giovanni Di Marco a Palermo come è finita Palermo-Cesena. Ciao Giovanni. Ciao, buona serata da Palermo. Intanto vi dico subito che è finita 2-2, perché a pochi secondi dalla fine, credo a 1-2 secondi dalla fine, ha segnato Zaccherini. Un lancio lungo con Torre da parte di un giocatore delle Cesena, palla che è finita a Zaccherini, che ha sorpreso la difesa del Palermo. 2-2 con conseguente rissa. Perché? Perché il secondo portiere delle Cesena, Calderoni, è piuttosto che esultare per il gol del proprio compagno e per un punto, insomma, insperato, a quel punto della gara è andata a esultare davanti alla panchina del Palermo, scatenando ovviamente l'ira di alcuni giocatori del Palermo, Piniglia, poi Niccoli e Liverani, insomma un putiferio vero e proprio. A sedare gli animi ci ha pensato l'arbitro, ma anche Piccadenti, che è andato a placare proprio Liverani e Niccoli. Partita che è finita 2-2 con i fischi del pubblico del Barbera, che insomma già è stato diviso per tutta la gara, perché dalla curva si insultava ancora, si contestava, stava la squadra dopo lo 4-0 subito a Catania, mentre il resto dello stadio applaudiva le iniziative della squadra, le belle giocate, insomma incoraggiava soprattutto, e ha applaudito tantissimo Delio Rossi, è stato un po' il protagonista di questa domenica, prima di questa rissa finale. Quindi diciamo una partita che, Carlo, se guardavamo il calendario all'inizio della stagione, insomma, vabbè, che importi Palermo Cesena, chi se non ai palermitani e ai cesenati, invece si è rivelata un contenitore di emozioni. Quindi Delio Rossi ha accolto bene, ma mi pare anche dai giocatori. Prima dicevo, sai, io ho delle impressioni molto parziali, no? Dicevo prima, dal linguaggio del corpo dei giocatori del Palermo, dalle facce dei giocatori del Palermo, mi sembra che sia stato un ritorno molto gradito da tutto l'ambiente. Guarda, dal pubblico sicuramente, dai giocatori anche, perché lui è stato sempre molto amato. Poi è chiaro che magari chi non gioca, può avere motivazioni diverse, però lui, soprattutto con i giovani, uno che lavora tantissimo con i giovani, cioè Rossi è capace di rimanere un'ora in più al campo per spiegare tatticamente cosa deve fare a qua piuttosto che Darmian. E siccome il Palermo è una squadra molto molto giovane, era molto molto affezionato al proprio allenatore, e si è visto non tanto in termini di impegno, ma in qualche modo ha ritrovato sicurezza. Molti giocatori in qualche modo hanno ritrovato sicurezza, al di là di quello che poi è successo negli ultimi 5 minuti, insomma, perché il Palermo, ricordiamo che era anche in superiorità numerica, e alla fine invece ha pareggiato una partita che aveva in tasca. Certo, grazie Giovanni Di Marco. Beh, ma questa è una chiave, no? Quando si arriva una squadra molto giovane, dare sicurezza ai giovani non è una cosa così banale, così scontata e così secondaria, a mio parere. Dunque, ripetiamo tutto quanto prima di cominciare a parlare con gli ascoltatori. Il primo ascoltatore di oggi sarà dalla provincia di Napoli, Antonio, 800240024, questo è il numero di telefono per chiamare. Però questi numeri della giornata di campionato, aspettando Fiorentina-Milan, Inter batte Chievo 2-0, Roma che vince 2-1 a Udine con Totti nel finale, e con belle dichiarazioni che magari poi vi faccio risentire, anzi certamente ve le faccio riascoltare. Bari-Catania 1-1, segnano Gazzi e Maxi Lopez nel primo tempo. Il Napoli, come detto, vince 2-0 a Bologna. Mascara e Hamsik, tutto nel primo tempo, 30°, 46°, Hamsik su rigore. Quindi Cagliari-Brescia 1-1, prima Cossu al 22° e poi Caracciolo al 16° del secondo tempo di testa su punizione di Diamanti. La Juventus oggi all'ora di pranzo ha battuto 3-2 il Genoa, e a questo proposito vi faccio tra poco riascoltare anche quello scambio di battute tra lo studio, molto divertente, ripeto, tra lo studio di Sky e Ballardini, allenatore del Genoa, perché c'è una discussione lessicale. I nostri ascoltatori sono molto attenti e molto colti, una questione di analisi grammaticale quasi da sistemare, una questione da dirimere tra me e Max da Modena, me Ballardini, studio di Sky eccetera. Max da Modena che dice: se la domanda è, secondo lei la Juve non può centrare l'obiettivo Champions? La risposta è no, allora vuol dire sì, almeno per la lingua italiana. Caro Max, tra poco proviamo a risolvere l'arcano. Invece è importante anche il risultato dell'Olimpico, perché la Lazio non ha nessuna intenzione di mollare. Anche qui rispondo a un altro ascoltatore via SMS, sì, di Hernanes, io credo, il gol della giornata con questo destro dai 20 metri molto secco a mezza altezza, 23esimo del primo tempo, che ha aperto le marcature. Partita chiusa al 32esimo della ripresa da Sergio Floccari. Come detto, ripeto, 2-2 tra Palermo e Cesena, quinto minuto Kurtic, 36esimo Pinilla nel primo tempo, e poi nel finale il Cesena in 10 riesce a racciuffare la partita, 47esimo Parolo e 51esimo Giaccherini. Altro risultato chiave in coda è la vittoria del Lecce a Genova con la Sampdoria, con i gol di Di Michele. Dopo che Palombo si è addormentato in mezzo all'area con un pallone tra i piedi, Di Michele gli ha rubato e ha segnato il gol dell'1-0. Poi Oliveira al 21esimo della ripresa, Maccarone al 24esimo, ma la Samp non è riuscita a rimettere insieme i cocci di questa partita. Classifica, coppia di testa, attenzione, 65 punti al momento e fino a stasera, quantomeno, per Milan e Napoli, una poltrona per due. L'Inter è lì che torna ad inseguire da vicino, 63 punti. Lazio 57, scavalca l'Udinese ed è quarto in zona Champions, Udinese a 56, Udinese che andrà a giocare al San Paolo nel posticipo di domenica prossima. Attenzione, circoletto rosso su questa gara. Roma 53, Juventus 51, Palermo 44, Cagliari 43, Fiorentina 42, Bologna 40, Genoa 39, Chievo e Catania 36, Lecce 34, Sampdoria e Parma, che hanno quelli, sono quelli con la faccia peggiore a parer mio, 32 punti, Cesena 31, Brescia 30, chiude il Bari sempre ammirevole con 21 punti. Antonio, provincia di Napoli, buonasera. Salve signor Genta, buonasera. Volevo chiederle se questo è ancora un campionato non tanto bello oppure quasi bruttino come le ho sentito dire altre volte. Signor Genta, io l'ascolto. No, non è che ha detto un brutto campionato, io ascolto anche durante la settimana il signor Garanzini, lei la domenica. Qualche volta non l'ho sentita dire che è proprio un campionato così bello. A parere mio è un campionato bellissimo e secondo me, me lo lasci dire, questa non è una provocazione, non è nulla, è soltanto per una parte di giornalisti appartenente a una fascia, diciamo, d'Italia, sì, che spesse volte dicono che questo purtroppo è un campionato non tanto bello. Ma guardi, come io, gli altri anni. Antonio, io rispondo alle mie opinioni personali. Non mi ricordo di aver detto che è un campionato brutto questo, non me lo ricordo sinceramente, ma anche perché non lo penso e non l'ho mai pensato. Non è un campionato, come sempre, granché spettacolare, questo lo sappiamo, ma è un campionato, guardi, quando c'è equilibrio la bellezza è in sé, no? È in Reipsa, è nelle cose, secondo me, più equilibrio di così con due squadre appaiate in questo momento a 65 punti, beh, è bello in sé, no? Poi non so se ne facciamo un discorso estetico o un discorso emotivo. Se ne facciamo un discorso estetico, parliamone. Se ne facciamo un discorso emotivo, il campionato è bellissimo. Ma questo è sempre stato il mio pensiero. La scarsa qualità, secondo me, dal punto di vista emotivo, si ha quando c'è una squadra che domina e sai già come va a finire. In questo caso non è così, e viva Dio, ce lo teniamo stretto questo campionato e questo finale di campionato. Antonio, io la ringrazio molto, torna a trovarci quando vuole, continua ad ascoltarci sempre. Grazie davvero, Traffico, poi torniamo, 800 24 00 24, siamo qui. Strade in diretta. Sulla 11 Firenze Mare ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze. Sulla 7 Milano-Genova si rallenta per un incidente tra Castelnuovo Scrivia e Groppello Cairoli verso Milano. Aumenta il traffico sulle autostrade per i rientri del fine settimana. In Liguria ci sono code verso Genova sulla 10 tra Finale e Savona e poi tra Varazze e il Bivio a 26 dei Trafori. Nella stessa direzione code a tratti in A12 tra Rapallo e Bivio per la 7. Sul tratto appenninico dell'Autosole per traffico ci sono rallentamenti verso Bologna tra Calenzano e Barberino di Mugello. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento con la Strada in diretta tra mezz'ora. A tempo di sport. Torniamo insieme, adesso vi faccio sentire le parole di Gigi De Canio, autore di uno dei colpacci della giornata, anzi forse in termini relativi il più importante, perché era un confronto diretto per la salvezza, perché Lecce si è portato al largo in questa lotta a salvezza perché ha inguaiato di brutto la Sampdoria, quindi triplo salto mortale in avanti per il Lecce. De Canio con Sky. Abbiamo parlato in altre circostanze che ci porta a giocare le partite con la convinzione di cercare sempre il massimo risultato. oggi siamo stati bravi e più fortunati di altre volte e credo che abbiamo messo in cantiere tre punti molto, molto importanti e ancorché meritati. Il primo gol di Di Michele è stato definito in telecronaca un calcio alla paura. Lei questa vittoria invece come la definirebbe? Probabilmente è così, si sapeva, una squadra che da quattro domeniche perde in casa e che ha visto dilapidato il proprio patrimonio di punti, è normale che non giochi serena. Ci ha messo tanto agonismo, ma mancava di lucidità e in quelle circostanze noi ne abbiamo saputo approfittare, per questo che i ragazzi sono stati molto molto bravi. Parliamo invece del suo lecce. Questo è Decanio, ovviamente felice per questa vittoria. Io volevo risolvere invece nel frattempo questa questione lessicale con Max da Modena. Allora, torniamo ad ascoltare questo post partita tra lo studio Sky e Ballardini, allenatore del Genoa, e proviamo a capire realmente cosa ha detto. Interpretiamo insieme. A proposito della Juve, rapidissimo Ballardini, poi la lasciamo ai colleghi, può centrare l'obiettivo Champions che Juve ha visto oggi? No. Non lo centra? Secco. E questa è la risposta? No, ho detto che non lo può, la risposta è no. Ah, va bene, grazie. Beh Max, non so se vuole facciamo l'analisi logica del periodo, però mi pare che Ballardini sia stato piuttosto chiaro. La Juventus può centrare l'obiettivo Champions? No, e l'ha ribadito, quindi questione risolta e onore a Ballardini per sincerità e rapidità di pensiero e di parola. Io saluto invece Mirko Graziano, collega, amico e collega della Gazzetta dello Sport, che ha visto Juventus-Genoa. Ciao Mirko. Ciao, un abbraccio. Siamo qui a fare l'analisi logica e del periodo, dicevo. Ballardini ha detto che questa Juventus in Champions League non ci arriva, giusto? Sì, è stato bello netto, perentorio. Appunto. Che squadra hai visto? Ho visto una squadra a due facce. Un primo tempo molle, un primo tempo molto impaurito, nel quale la Juve si è trovata sotto, volendo anche immeritatamente, che senza subire tiri in porta si è trovata sotto di un gol, con un autogol abbastanza rocambolesco di Bonucci, però un primo tempo nel quale poi la Juve non ha costruito obiettivamente niente. E invece una ripresa totalmente diversa, spumeggiante, 6-7 occasioni da gol, cose che la Juve non faceva da parecchio tempo, una vittoria alla fine meritata, anzi meritatissima, con un paio di cambi azzeccati, in particolare con l'ingresso di Toni, sì, che ha dato profondità alla squadra, ha liberato un po' di più Matri, ha dato anche più coraggio ad Aquilani e a Marchisio dietro, insomma una squadra molto più tecnica, molto più spumeggiante, più veloce, che ha creato tantissimo e che ha meritato assolutamente di vincere. Sì, ma questa Juventus in Champions League ci arriva o no secondo te? Ma guarda, guardando le squadre che stanno davanti, veramente tutto è possibile, nel senso che l'Udinese ha frenato in maniera paurosa, la Lazio fa punti ma sembra sempre che debba cadere da un momento all'altro, sì. La stessa cosa è la Roma che alterna momenti, all'interno della stessa partita alterna momenti fantastici a momenti imbarazzanti. Certo è che la Juve ha troppe squadre davanti, quindi troppe cose devono succedere, sì, è molto difficile dire qualcosa adesso. Più che altro, guarda, in questo momento qua, se non ci fossero scontri diretti ti direi no, non ce la fa la Juve, ma siccome da qui a fine campionato davanti alla Juventus parecchie di quelle squadre lì si incontreranno fra di loro, e soprattutto siccome la Juventus è in vantaggio negli scontri diretti con Udinese e Roma, sì, per esempio, e deve andare a giocare a Roma con la Lazio, quindi lì poi si giocherà la sua Europa la Juventus, ecco, in questo senso ti dico che ancora qualcosina è possibile. Cioè, vuoi vedere che dopo tutto quello che abbiamo detto, tutto sto fiume di parole, Juventus e Roma vanno a giocarsi quel quarto posto su cui è stata, e meriterebbe la Lazio che è lì da un'eternità, meriterebbe, esatto, l'Udinese, esatto, che ha fatto un grande Udinese, ci troviamo le solite note e quindi ci spernaccheranno giustamente tutti, no? Finirà è così, è ancora lunga. E per lo scudetto quanto è lunga? Per lo scudetto io credo che stasera il Milan potrebbe, tra virgolette, mettere a tacere tutti vincendo a Firenze. Se non vince a Firenze invece poi dopo diventa divertente, anche se io ho visto l'Inter ieri e l'Inter mi è sembrata in riserva proprio, sì, in riserva negli uomini chiave, una squadra tra l'altro tatticamente neanche messa benissimo in campo, che oltretutto appunto non ha più le gambe di prima, soprattutto non ha più le gambe di Eto'o, che era l'uomo che aveva mascherato un po' tutto. E quindi francamente l'Inter, faccio fatica a vedere l'Inter spumeggiante in questo finale, faccio molta fatica a vedere il rush finale vincente dell'Inter, anche se poi bisognerebbe domandarsi perché Eto'o, che è stato dato a riposo per tutta la, per i tre giorni della vigilia di questa partita con il Chievo, alla fine regolarmente in campo per la 300ª volta in questa stagione. Credo perché Milito sia in condizioni precarissime, penso che non abbia mai più di 25-30 minuti nelle gambe. Allora tu mi dirai perché non far giocare Pandev, hai ragione, ma chiunque, perché non far giocare Pandev? Senti, me lo chiedo anch'io. Ti ricordi quella volta, giocano Mourinho, giocano Ibrahimovic e altri 10, no? Giocano altri 10, ma non giocano, gioca un altro ma non è Eto'o, perché onestamente questo qui non ne ha davvero più. Poi lasciamo stare tutto il fumo che è stato seminato dopo, proveremo la rimonta a Gelsenkirchen, ma in che film, lascia stare. O lo Schalke decide di suicidarsi in marzo. Sì. Grazie Mirko, un abbraccio. Un abbraccio a voi, ciao, grazie, a tutti. Grazie davvero. Io vi voglio far sentire invece Reia, che sta parlando con Sky. In condizione arriviamo in questa fine campionato? Mario. No, era proprio questo, perché non è la stessa cosa per la Lazio giocare in casa o fuori casa. L'ultima vittoria, cioè dal 31 ottobre a oggi, c'è stata una sola vittoria fuori casa. E ci sono state delle sconfitte abbastanza puntuali. Ecco, tu pensi che adesso sarà la mentalità, sarà la nuova stagione e si possa andare a cercare di vincere? O quale tipo di impedimento pensi ci sia per questa Lazio in trasferta? Ma Mario, non so se hai visto la partita anche di Napoli, noi abbiamo fatto tre gol, quattro gol, quella del Napoli, e non siamo riusciti a portare a casa un risultato, evidentemente per sicuramente qualche difficoltà che abbiamo, forse per poca attenzione e forse per maturità, un po' di ingenuità le abbiamo commesse. Io vorrei che la squadra riuscisse a fare quel passo importante per poter reggere scontri di un certo livello e mantenere queste posizioni in classifica. Sai, per mantenere queste posizioni in classifica devi avere grande personalità e devi sapere anche sfruttare i momenti giusti, come lo fa la Roma, per esempio. La Roma gli dà in mezza opportunità, ti castiga. E noi purtroppo, sotto questo punto di vista, siamo ancora una squadra in fase di maturazione. Questo è direi adunque che parla di Lazio ancora in fase di maturazione. Mi stavo pensando a Prandelli e a tutto il casino settimanale gratuito, totalmente gratuito. Prandelli, queste dichiarazioni di affetto, ammirazione nei confronti del Napoli, e Gagliani che ha subito preso in mano il telefono per chiamare Abete. Oh, cosa sta dicendo il tuo sottoposto? Non si permetta mica, grosso modo, no, ma poi non sarà andata così. Però mi domando e vi domando se a voi ha dato più fastidio questa esternazione della CT della Nazionale o questo numero di telefono composto all'istante. Qui questione di gusti. Intanto Reia citava, sconcerti la sua domanda, citavano un calendario che diventa a questo punto della stagione particolarmente importante. Stavo anche dando un'occhiata al prossimo turno, ve lo ricordo così per la cronaca, perché ci sono altre partite fondamentali. Sabato se ne giocano tre di queste gare, sabato 16 aprile con la Roma alle 18 che riceve il Palermo, con il Milan alle 20:45 che ospita una Sampdoria che ogni volta è all'ultima chance, ma questa volta ci è arrivata davvero, perché rischia di finire davvero per la prima volta in zona rossa, zona retrocessione, e va a giocare sul campo del Milan. L'Inter invece alla stessa ora giocherà a Parma, e anche qui è interessante perché, come dicevo prima, mi sembrano le due squadre più inguaiate come prospettive, come mentalità, come condizione, eccetera. Quindi un interessante incrocio questo di sabato sera tra Milan-Sampdoria e Parma-Inter. Domenica la Lazio va a Catania, quindi Cesena-Bari, Chievo-Bologna, Fiorentina-Juventus, Genoa-Brescia, Lecce-Cagliari, e alle 20:45 in quel caso toccherà al Napoli dare la risposta con l'Udinese che sinceramente mi sembra abbia abbastanza finito la benzina. Per completare invece il quadro delle dichiarazioni, ovviamente poi ne arriveranno altre in diretta che vi faremo sentire insieme ai vostri interventi, 800 24 00 24, per parlare con noi, io volevo farvi sentire invece le voci di ieri sera con Leonardo, con Cambiasso e con Totti grande protagonista della partita di Poromanzesca, molto, molto divertente, di Udine. Tra l'altro oggi Totti ha esternato di nuovo, poi vado a prendere anche quelle dichiarazioni che vi leggerò. Intanto Leonardo, che crede ancora in tutto, beato lui, sentiamolo. Noi stiamo pensando a tutto, stiamo pensando a tutto. Io forse, sai, mantengo il mio ottimismo di sempre, non posso non pensare che sia possibile, per me, dentro di me è possibile, perché le partite non deve essere neanche molto facile preparare una partita per non perdere 4-0. È sì una cosa veramente possibile, vediamo come la partita si svolge, sicuramente come la prepariamo, come stiamo, ma io ci credo, credo che anche Samuel dall'altra parte è stato uno dei primi a muovere, diciamo, gli umori verso questo, perché è una cosa che ci crediamo davvero. Beh, ci crede davvero, insomma, fa bene ragionevolmente a credere nella possibilità di aprire la corsa scudetto. Non scherziamo invece sulla partita di Champions League, perché a meno di un suicidio collettivo di cose tutte anomale mai viste nella storia del calcio, l'Inter farà il funerale della sua Champions League mercoledì sera, come anche, insomma, normale che sia dopo la partitaccia dell'andata. Sta per parlare Walter Mazzarri, naturalmente ve lo farò ascoltare. Eccolo lì con Sky. Dei sogni, tratto da un film, la nostra regia si è ispirata al cinema per accogliere Walter Mazzarri e questa posizione di primato in classifica. Come commentiamo? Bella. Intanto complimenti, perché è bellino questa cosa. Niente, Ugolini, che è stato per tanti anni mio nemico, ora siamo diventati amici, quindi facciamo un po' di discorsi mentre si aspetta, mentre siamo... È particolarmente euforico, guarda, raramente l'ho visto così. Ha anche fatto un pronostico per questa sera Fiorentina-Milan. Oh, sentiamolo. No, ecco, vedi. Non si può dire? No. Facevamo delle battute, si scherzava e lui se subito... Se ne ha approfittato subito, ma Walter, lo cambiamo, non ti non preoccupare. Non è serio, direttore. Basta, lo imbavagliamo, quell'Ugolini lì. Grazie Mario. Che non deve fare ste domande. Sì. No, Mazzarri, come si sta lassù? Come si sta? Qual è la prima volta? È un momento storico questo, durerà non si sa quanto, lo vedremo nel verdetto di questa sera, ma come si sta? No, al di là di oggi, ma si sta bene. Quando si vince, voi lo sapete, chi vive di questo mestiere, i risultati è inutile nasconderlo, ci condizionano la vita, in settimana tutto è tutto diverso, e quindi bisogna cercare di vincere il più possibile. E comunque, tornando alla partita di oggi, ho visto, non era una partita facile, un caldo particolare, una buona squadra come il Bologna che dopo la sconfitta di Brescia, cioè, l'ha tentate tutte, proprio veemente. Noi siamo stati bravissimi il primo tempo, credo che abbiamo fatto un primo tempo perfetto, e il secondo abbiamo gestito, abbiamo rischiato forse qualcosa un po' nel finale, potevamo evitarlo, ma va dato merito anche al Bologna che ha cercato di darci fastidio fino alla fine. Risposta bene, questo è Mazzarri. Adesso dobbiamo fermarci un attimo, poi torniamo insieme. Se volete intervenire, 800 24 00 24. Franco da Mantova, anche voi contro l'Inter, speriamo di smentirvi mercoledì. Rispetto per i nerazzurri, ma sì, ma rispetto non solo per i nerazzurri, ma anche per tutti gli altri colori del mondo. Questo sia chiaro, però se vogliamo parlare realisticamente, mi viene a dire che l'Inter ha qualche chance di uscire qualificata per la semifinale da Gelsenkirchen. Beh, io fino a che non lo vedo, e non lo vedrò, ne sono certo, non ci credo. Ci fermiamo un attimo. 01 Distribution presenta... È successa una cosa enorme! Il nuovo film di Nanni Moretti. Nessuno ha mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere. Senta... Ha problemi con la fede. Abemus Papam, dal 15 aprile al cinema. La vera grandezza si esprime in ogni piccolo particolare. Sa offrirti spazio senza occuparlo. Sa darti il lusso senza essere mai eccessiva. La vera grandezza ha diversi punti di vista. Considerateli tutti. Nuova Lancia Delta Gold. Contenuti da ammiraglia. Dimensioni da compatta. Nuovo design. Nuovi interni. Nuovo motore diesel 1.6 multijet 105 cavalli. Cerchi in Lega. Blue ME. Clima Bizona. Nuova gamma Delta a partire da 17.900 euro. Scoprila sabato e domenica. Offerta valida con il contributo dei concessionari Lancia aderenti fino al 30 aprile. Hai mai acquistato uno scooter al costo di una bicicletta o uno yacht al costo di un pedalò? Questa volta sì, da Mailboxes Etcetera. Con la promozione MBA Easy Boxes, spedizioni fino a 10 kg in tutta Italia a soli 11,90 euro. Cerca i centri MBA aderenti su mba.it e fino al 30 giugno spedisci a prezzi low cost con la qualità Mailboxes Etcetera. Spedire è facile con MBA Easy Boxes. Consegna in 3 giorni lavorativi a 11,90 euro. Champagne, al costo di un frizzantino. Gli oggetti devono fare compagnia. Achille Castiglioni. Nulla è bello, tutto dipende da chi guarda. Philip Stark. Scoprite gli artisti del nostro tempo e le loro creazioni. I maestri del design. La prima collana dedicata ai designer più famosi del mondo. Da giovedì con il Sole 24 Ore, la prima uscita a Gio Ponti a soli 4,90€. Il mio primo socio. Dopo un po' ho scoperto che non era affidabile. L'altro non reggeva il peso del lavoro. Oggi ho scelto Ford Transit, una garanzia per 200.000 chilometri. Ford Transit, socio inseparabile. Da oggi con garanzia Ford Protect, 5 anni o 200.000 chilometri, disponibile su tutta la gamma. Transit Van 2002 TDCI con clima e radio CD a 14.000 euro. Per tutti, anche sabato 9 e domenica 10. Soluzioni magazzino? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Domani ci attende un'altra giornata caratterizzata dalla presenza sull'Italia dell'alta pressione di matrice africana. E questo vuol dire che godremo ancora di tempo bello e di caldo fuori stagione. Quindi in generale domani prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, appena qualche nuvola in più, soprattutto al mattino lungo il versante tirrenico, e temperature ancora al di sopra delle medie stagionali, in particolare temperature pomeridiane in generale comprese fra i 20 e i 27 gradi. Quanto durerà ancora questo caldo fuori stagione? Direi ancora per la giornata poi di martedì, mentre mercoledì arriveranno correnti più fresche. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E per il meteo è tutto. Profumi, sapori, piaceri. Questo è il mondo che amiamo. Radio 24 sarà ospite del Trentino alla 45esima edizione di Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati di Verona. Radio 24 a Vinitaly, dal 7 all'11 aprile, Padiglione 3. In collaborazione con Trentino, cuore delle Dolomiti, terra di grandi vini. Dai clienti, presentatevi con Opel Vivaro. Furgone e combi 9 posti, 145 soluzioni di carico, motori CDTI anche Euro 5, affidabilità e meno costi. Vivaro con clima e CD MP3 da 13.900 euro de tax. Opel Vivaro, meglio di un biglietto da visita. Massimo Fabris, titolare BF SNC. La nostra azienda produce macchine avvolgitrici per trasformatori elettrici. Per molti anni abbiamo sofferto le dimensioni e l'organizzazione dei nostri principali concorrenti. Grazie all'export specialist Comarch, oggi esportiamo in Germania, Turchia, Asia e Nord Africa con un modello moderno e vincente, e siamo alla costante ricerca di nuovi potenziali mercati e clienti. Diventa anche tu un'azienda di successo con Comarch. Comarch 800 123 640. Comarch www.aziendedisuccesso.it. Con il camper cambiare aria è facile. Non devi prenotare, non devi organizzare, devi solo partire. Cerca su assocam.com la concessionaria più vicina. Il camper che fa per te ti sta già aspettando. Associazione produttori caravan e camper. Yuhu, si parte! Oggi nella mia azienda si parlano tutte le lingue del mondo, con i fornitori in cinese. Boh, vuoi segnare i percentuali di sconto? Con i distributori in rumeno. Prescum! Prescum! Con i clienti in inglese. The right pressure is 10 bar. Ma chi è che parla la mia lingua? Pantera, lo straordinario strumento di gestione che accompagna l'impresa italiana a competere nel mercato globale. Pantera parla la tua lingua. Visita il sito www.pantera.it. Pantela? No, Pantera, col TH. Incredibile. Microgocce di carburante iniettate direttamente nella camera di combustione. Così ogni goccia rende di più e inquina meno. Nuova Ford Focus con EcoBoost. Ad aprile in tutti gli showroom Ford. Anche sabato 9 e domenica 10. A tempo di sport. Torniamo insieme, e se volete venirmi a trovare al telefono 800 24 00 24 che ci divertiamo di più. Intanto restiamo, anzi andiamo ora a Bologna, dove c'è Emilio Buttaro, credo anche con degli ospiti dopo Bologna-Napoli. Ciao Emilio. Sì, grazie Carlo, sono insieme qui a Bologna al presidente, al neo presidente del Bologna Albano Guaraldi, e poi anche a un gradito ospite Fabio Pecchia, doppio ex, perché lui ha giocato sia con la maglia del Bologna che con la maglia del Napoli. Allora intanto una battuta al presidente, un commento a questa gara, diciamo presidente che il suo esordio poteva anche andare meglio, comunque no, l'avversario di turno era di turno di tutto rispetto. Era un avversario di tutto rispetto, credo che ci siamo battuti, abbiamo avuto un pizzico anche di sfortuna forse, comunque bisogna pure ammettere che Napoli adesso è una realtà sicuramente fra le più forti, fino a stasera sicuramente la prima in classifica, quindi abbiamo perso dalla prima classifica in questo momento, poi ci può stare, loro sono preparati molto tecnicamente, fisicamente, è una grande squadra. Ci siamo battuti, abbiamo provato a fare anche delle formazioni diverse forse per prepararci a dei nuovi schemi che poi, come poi si è visto, non ci portano bene, ma Malesani ha fatto questa prova per far vedere che abbiamo anche altri giocatori che possono giocare. E poi ribadisco, il Napoli è una grande squadra, al di là di un pizzico di sfortuna che abbiamo avuto, comunque credo che insomma la partita l'abbiano visto tutti e sia indiscutibile la loro forza. Ecco, Fabio Pecchia conosce benissimo il calore dei tifosi del Napoli, oggi ce n'erano circa 15.000 presenti allo stadio Dall'Ara di Bologna, hanno dato davvero un grande sostegno a questa squadra e il Napoli, c'è da dire che ha fatto la sua parte, è stata una vittoria importante, maturata nel primo tempo, il Napoli, Fabio, ha confermato la qualità tecnica e ormai anche un atteggiamento mentale giusto. Vabbè, il campionato è sotto gli occhi di tutti, no? Stanno facendo cose straordinarie al di là di ogni più rosea aspettativa e sì, il primo tempo forse hanno legittimato la vittoria, ma comunque bisogna fare complimenti al Bologna perché è una situazione che ho vissuto a Bologna, in una situazione di difficoltà così insomma sotto gli occhi di tutti, questa squadra ha comunque saputo mantenere, fare dei risultati tecnici sotto gli occhi di tutti, insomma i 40 punti, anzi forse 43, quindi con valorizzando De Giovani, quindi anche complimenti alla squadra, oggi ci può stare una sconfitta per i giocatori di Malesani. Non so se c'è qualche domanda dallo studio, Carlo. No, io volevo chiedere una domanda a testa, volevo chiedere al presidente, volevo una conferma al presidente che le traversie per il Bologna sono finite. Questa è la mia domanda per il neo presidente del Bologna, che sono ufficialmente e definitivamente terminate. Io penso e spero, ma soprattutto penso e credo di sì. Poi ci stiamo ancora assestando, stiamo affinando alcune cose, ma credo che le traversie di quest'anno dovrebbero essere finite. E anche per l'anno prossimo o il futuro, insomma, i tifosi del Bologna possono stare tranquilli, questo sì. Io direi che i tifosi del Bologna possono stare tranquilli. Perfetto, buon lavoro allora presidente. Fabio Pecchia, il sogno resisterà? Domanda banale, scontata, ma se la sta facendo tutta Italia a questo punto, caro Fabio. Beh, alla fine se la giocherà il Napoli, l'Inter e il Milan per lo scudetto, insomma, qualcosa ormai è evidente e come dire, l'incomodo si trova a lottare tra le due grandi, Inter e Milan, però il Napoli adesso deve sentirsi grande e tale si comporterà fino alla fine. Ne ha ancora l'Inter secondo te? Ma questo non lo so, devo dire che tutte e tre se la giocheranno e l'Inter non deve fare solo la corsa sui cugini ma anche sui partenopei. Grazie Fabio, grazie a tutti, grazie davvero. Fabio Pecchia, presidente del Bologna, abbiamo sentito, grazie a Emilio Buttaro. Adesso, aspettando le vostre voci, 800 24 00 24, vi regalo quella di Deglio Rossi che torna a parlare da allenatore. Noi abbiamo dei giocatori che sono molto bravi nella fase offensiva e vanno in un certo qual senso, se giocano loro, vanno in un certo qual senso anche aiutati per poter esprimere, non gli posso chiedere grandi rientri. Oggi non avevo questi giocatori davanti, mi serviva più qualità a metà campo, ho visto Fabio meglio di altri e l'ho fatto giocare. Ho capito. Delio, io una curiosità ce l'avrei, ma vedo la classifica, noi davanti c'è Juventus, Roma, Udinese, Lazio e le altre tre, quindi Palermo sta facendo il suo campionato. Per quanto riguarda il prossimo anno, no, la tua storia con Palermo, hai parlato anche di questo con Zamparini, visto il richiamo, oppure no? No, non ho parlato con, a dire verità, non ho parlato con poco e niente con Zamparini. Chi l'ha chiamata, nel senso Rossi? Che non lui mi ha chiamato. Ah. Lui mi ha chiamato, io gli ho detto che sarei rientrato, prima avevo bisogno di parlare con la squadra per sciogliere la riserva, poi siccome li conosco questi ragazzi e sono ritornato per tre motivi. Prima di tutto perché conosco questi ragazzi, soprattutto a me piace finire i lavori, era 11 anni che non finivo un campionato. Poi sono una persona orgogliosa e poi c'ho l'affetto della gente che mi sembrava in un certo qual senso di tradirli. Queste sono state le componenti che mi hanno fatto tornare. Mi ha chiamato Zamparini, però non abbiamo parlato di futuro, anche perché io stavo cominciando a guardarmi attorno, però è arrivata la richiamata. La richiamata, capisci? Il pubblico. La richiamata non è male. Stava cominciando a guardarsi attorno e qualche bene informato assicura che delle risposte le aveva già avute o stava per averle o le ha già in tasca. C'è chi dice che potrebbe. Che il futuro di Delio Rossi potrebbe essere viola. Naturalmente prendetela così com'è, come indiscrezione di mercato, però secondo qualcuno Delio Rossi potrebbe andare ad allenare la Fiorentina nella prossima stagione. Non so invece sinceramente cosa succederà alla Sampdoria, tra poco magari Cavasin ce lo dice, sempre attraverso i microfoni di Sky, perché la Sampdoria dall'arrivo del nuovo allenatore nulla è cambiato, nessuno shock positivo c'è stato, la Sampdoria sta scivolando verso la retrocessione, mi sembra un fatto incontestabile questo. Non so se anche in questo caso, come in quello di Palermo, avremo situazioni ad elastico, magari con il ritorno di Carlo. Sentiamo un po' Cavasin con Sky. Si sente tranquillo sempre, ognuno fa sempre quello che può, ma si sente confermato anche dopo questa partita, Cavasin? Ma non è un pensiero che mi è venuto, a domanda rispondo che non ci penso. No, ma non è... Posso dire che chi può prendere decisioni mi mandi a casa fa peggio del peggio, quindi per quel che mi riguarda, perché la vedrei così, ma siccome non sono io che decido di me stesso, chi dovrà decidere o può decidere che faccia pure, tanto non accetto comunque tutto. Ma di che cosa è ammalata la Sampdoria, Cavasin? Che cosa c'è di così inesorabile in questa Sampdoria che non si riesce a dargli? Anche perché senza polemica, siccome che io ho sempre stato uno che ha sempre fatto i fatti suoi, penso di aver messo a posto tante cose, tantissime, però magari le dirigenze non ci pensano a queste cose in generale, no? Ovvero? Farebbero dei danni. Condizione fisica, gruppo che aveva dei problemi, giocatori che erano malati, tante cose. Classico di una situazione che una società prende una decisione perché ci sono dei guasti, direi tutto normale, però penso che ci siano, al di là dei risultati, che sono quelli che contano, come hanno detto sempre fin prima i miei colleghi, ci sia da quando sono arrivato una squadra oggi che ha giocato, che ha meritato, il migliore uomo in campo della squadra avversaria è stato il portiere. Quindi anche questa deficienza del gol, abbiamo fatto un gol, ne abbiamo subito due purtroppo, però abbiamo avuto un innumerevole numero di palle gol, abbiamo fatto la miglior partita da quando sono qui, una squadra vera, forte, che meritava di vincere, poi i risultati contano, soprattutto in questo momento che non è l'inizio del campionato, e questa è la prestazione nostra di oggi. Beh, non mi sembrano bellissime parole quelle di Cavasin, perché se giochi la migliore partita e perdi 2-1 in casa con il Lecce, se cominci a dire in ballo il fatto che il portiere avversario è stato il migliore, eccetera eccetera eccetera, mi sembrano parole molto pericolose per il futuro della Samp. Non so come la pensate voi, comunque dopo il traffico torneremo a parlarne. Giulietta, l'auto più sicura della categoria, con nuovo motore diesel JT DM2 da 140 cavalli. Vi presenta Strade in diretta. Disagi per alcuni incidenti e per il traffico intenso di rientro sulle autostrade in più punti. Sulla rete, sulla 14 Adriatica, ci sono code per un incidente tra la diramazione per Ravenna e Imola verso Bologna. Ripercussioni per chi viaggia sulla diramazione per Ravenna con difficoltà di immissione in A14. Sulla 7 Milano-Genova si rallenta per un incidente tra Castelnuovo Scrivia e Groppello Cairoli verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese si incontrano code per un incidente verso Milano tra Busto Arsizio e Gallarate. Sulla diramazione Gallarate-Gattico ci sono code per il traffico intenso verso la 8 dei Laghi tra Castelletto Ticino e Besnate. Ci spostiamo in Toscana, sulla 11 Firenze Mare ci sono code a tratti per un incidente adesso risolto tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze. Sulla 5 Torino Osta sono i lavori a causare code tra Chantillon-Saversane e Verre in direzione di Torino. Traffico intenso sulle autostrade liguri, code sulla 10 verso Genova tra Finale e Savona e tra Celle e la 26 dei Trafori. Nella stessa direzione code a tratti in A12 tra Rapallo e Bibbio per la 7. Sempre sulla 12 verso Genova ci sono code per lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. In direzione della capitale ci sono code per il traffico intenso sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. Dietro al futuro di molte persone c'è Fondartigianato, il fondo interprofessionale che da anni si impegna a elargire contributi per la formazione dei dipendenti delle aziende aderenti. Da oggi questo impegno a sostegno della competitività delle imprese e dei sistemi produttivi territoriali è diventato ancora più intenso ed importante. Su www.fondartigianato.it c'è l'invito primo 2011 per trovare un'offerta di formazione ricca con tante linee di finanziamento studiate per soddisfare al meglio i fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori. Per informazioni sui tempi di presentazione, le risorse disponibili e assistenza tecnica 06 70 45 41 00. A tempo di sport. Dunque torniamo per parlare di Samp, per provare a capire che cos'ha la Samp, per provare a capire anche quale sarà l'immediato futuro, perché dietro l'angolo c'è la trasferta di Milano con il Milan. Per Cavasin ci sono, al di là della sua difesa d'ufficio, ho messo a posto tante cose, condizione fisica, il gruppo, lo spogliatoio eccetera, però i risultati dicono che sono 3 sconfitte e 1 pareggio con Cavasin in panchina. Marco Lignana da Genova, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera agli ascoltatori. Cos'ha la Samp? Io vedo tanti segnali pessimi per i tifosi cerchiati, compreso Palombo, che sia capitano, che si addormenta in mezzo all'area con un pallone che viene scippato di Michele, che segna il gol del vantaggio del Lecce aprendo la strada. Ma sì, guarda Carlo, se ti ricordi, gli ascoltatori ricordano, già in tempi non sospetti noi qui a Tempo di Sport parlavamo di una situazione tutt'altro che facile quando ancora non c'era questa classifica, ed è già paradossale che la Sampdoria, dopo tutti i mesi che ha fatto, non è ancora fra le ultime tre, quindi retrocedere sembra davvero un'impresa difficilissima, ma questa squadra ce la sta facendo e anche alla grande. Si parlava prima, sentivo anche voi in trasmissione, che parlavate di decisioni che può prendere la società con Cavasin. Il problema è che c'è proprio un vuoto di potere pazzesco nella stessa società, perché anche oggi, ad esempio, non c'era nessuno della dirigenza blu cerchiata allo stadio. Sì. Ed era una partita in casa, e questo fa capire molte cose, ancora di più forse di quello che si è visto in campo. Sì. Il direttore sportivo Tosi è andato a Cagliari per ufficialmente monitorare Cagliari-Brescia, essendo due dirette concorrenti. Riccardo Garrone ovviamente non si è presentato, memore anche delle ultime pessime accoglienze anche incivili dei tifosi. Sì. Della tribuna nei suoi confronti. Non c'era neanche il figlio, che è quello che negli ultimi mesi aveva un po' preso in mano le redini della questione, ma potendo fare ben poco. L'unica persona presente, e anche questo fa capire molte cose, è Guastoni, che è il commercialista della famiglia Garrone, con studio a Milano, e che è colui che ha praticamente trattato il calciomercato. Adesso, con tutto, senti, il rispetto, ma secondo far te fare il calciomercato al commercialista, sì, poi può pagare. Sì, può pagare questa cosa. Su questo possiamo discutere, non so quanto ne sappia di calcio il commercialista, e sinceramente mi interessa anche pochino. Mi interesserebbe invece sapere se quel commercialista avrà da lavorare nei prossimi mesi, secondo te, o almeno a quanto si dice, eccetera, sul fronte invece una possibile cessione del club. Poi vediamo in quale categoria si trova e si tratterebbe di vendere la Sampdoria, ma venderà Garrone secondo te? Ma anche su questo le cose sono molto semplici, nel senso che Garrone l'ha detto apertamente già da ottobre, novembre addirittura, quando magari cominciavano a venire fuori i primi problemi con il mancato accesso alla Champions League, lui aveva detto: se io trovo qualcuno sono dispostissimo a vendere, però non c'è nessuno che la compra. Sulla famiglia Garrone, sulla serietà non ci sono dubbi, nel senso che o si trova un venditore o di certo non si pilota la società verso il fallimento. Il problema adesso è che nessuno compra una squadra che l'anno scorso valeva tanto, aveva due fenomeni come Cassano e Pazzini ed era ai preliminari di Champions League, adesso è più in Serie B che in Serie A, nonostante la classifica adesso non lo dica ancora, ma i dati sono quelli che sono. Qua Genova ha vinto il Cagliari, ha vinto il Parma, ha vinto il Cesena e oggi ha vinto il Lecce. Basta guardare queste cose per capire che è veramente un'impresa disperata, indipendentemente dalla classifica. Cambierà l'allenatore? Io credo che al momento ancora no, nel senso che adesso c'è una partita contro il Milan, io non so, neanche Mourinho credo che potrebbe far vincere o pareggiare la Sampdoria, la partita di San Siro. È possibile che si aspetti ancora una settimana, perché comunque non è la partita decisiva, era molto più decisiva oggi la partita. Certo. E anche lì però sono perplesso, perché se penso che l'allenatore Cavazin è stato scelto per sostituire Di Carlo e dare scossa, ed è comunque un allenatore che non si presentava a Genova con un curriculum eccezionale, cosa si possa tirare fuori dal cilindro dopo già aver fatto una scelta di quel tipo un mese fa. Beh, Di Carlo con l'elastico che torna indietro, conosce il gruppo, conosce i giocatori, conosce l'ambiente e prova a sistemare a riavviare la barca per quanto possibile, anche se insomma mi sembra che non ci sia moltissimo da fare. Leggo in tutto questo, in questa situazione, anche nel modo di giocare al Sampdoria, una pericolosa rassegnazione. Marco, io ti ringrazio Marco Lignana. Vorrei sentire Ficcadente, allenatore del Cesena, invece, anche sulla gazzara che è scatenata, credo stia parlando, nel finale di questa partita. Anche in 10 contro 11 ci ha creduto, poi è chiaro, a 6 minuti dalla fine recuperare 2 gol a Palermo non capita tutti i giorni, insomma. Lei non vuole proprio parlare dell'arbitro, di quanto accaduto, che probabilmente ha condizionato anche il finale con il troppo nervosismo. Lei è stato un pacere nei confronti di Miccoli e Liverani, che erano molto arrabbiati col Calderoni. Ha parlato con Liverani e Liverani le ha detto cosa è successo. Allora, io credo che ci voglia un po' da parte di tutti un po' di serenità e credo che la gestione, a parte gli episodi che ci sono stati, che possiamo rivederli, sono oggettivi, l'arbitro può aver visto in un modo o in un altro, quindi è chiaro che però nella testa del giocatore può scattare qualcosa, no? Io non ho avuto un rigore o un altro episodio, e bisogna avere la tranquillità di gestire. E credo che invece di rimanere un po' tutti tranquilli, noi e la terna siamo andati sempre crescendo. Poi è chiaro che il risultato finale da 2-0 a 2-2 ha creato qualche situazione di tensione, qualche parola di troppo, che poi è finita lì. Non è bellissimo da vedere, devo dire, però può capitare. Questo intanto era il rigore. Questo è Ficcadente, mi piace molto, vi devo dire, il modo suo e del Cesena di gestire questo finale di campionato, a differenza di molti altri. Oggi, ad esempio, se vogliamo star lì a spigolare tra gli episodi, c'era un rigore piuttosto netto per il Cesena, lo ha sottolineato con molta, molta tranquillità, e poi l'atteggiamento che ha avuto in questo finale di gara molto nervoso, insomma, lo ha spiegato lui stesso. Andrea da Bologna, altro ascoltatore, chiudiamo questa prima ora, poi ne abbiamo un'altra per parlare insieme. 800 24 00 24, numero verde. Buonasera Andrea. Buonasera. Dica. Senta, no, prima di tutto rispondo alla domanda che aveva fatto sull'intervento di Galliani su Prandelli. Sì. Da milanista le dico che per l'ennesima volta abbiamo fatto la figura di cioccolatai. Dopo Madrid, dopo Marsiglia, Dida e altri episodi. No, ma Andrea, ma da milanista, la domanda la ripeto a lei, da milanista, trova, sì, le ha dato così fastidio quello che ha detto Prandelli? Non Prandelli, la risposta è di Galliani. No, ma quello che ha detto Prandelli, ma a lei? Assolutamente no, assolutamente no. Io non capisco quale sia il problema. Una squadra che non è la mia, che è coinvolta nella lotta scudetto, tengo normalmente quella che ha vinto di meno. Quindi da milanista è chiaro che non mi auguro che vinca Napoli. Ma evidente. Ma se il Milan fosse quarto o quinto, preferirei il Napoli piuttosto, sicuramente che l'Inter. Piuttosto che l'Inter, la Juventus o un'altra. Ma poi chi se ne importa di quello, per chi fa il tifo Prandelli, che poi ha detto tra serie e faceta ha rilasciato anche dichiarazioni, voglio dire, molto simpatiche. Quindi io la ringrazio per questa sua risposta, magari ne aspetto altre. Ma da milanisti soprattutto, più infastiditi per quanto ha detto Prandelli o per quella telefonata di pessimo gusto, secondo me, di Galliani? GR, poi torniamo insieme. 800 24 00 24, numero verde vostro. Dunque torniamo insieme, 800 24 00 24, per parlare con noi, per commentare questa giornata di calcio che deve vivere l'ultima risposta, dicevo prima, questa sera. Tocca ora al Milan, palla al Milan per rispondere al Napoli, all'Inter, la Lazio, Juventus e Roma hanno dato le loro risposte ovviamente per altri obiettivi. Per parlare, se volete, di Formula 1 con la corsa che abbiamo visto oggi, che ha visto di nuovo le Ferrari in difficoltà, o di ciclismo, ve l'ho detto in apertura, il belga Johan Van Summeren ha vinto la Parigi-Roubaix. Questi sono i risultati della giornata di sport. Fin qui c'è chi scrive: ma se Prandelli avesse detto che tifava Milan, crede che non sarebbe successo nulla? Capisco che lei tifi Napoli, ma si contenga. Io non tifo Napoli, guardo il Napoli con simpatia, perché credo che uno scudetto al Napoli sarebbe qualcosa di strano, di divertente, di entusiasmante, no? Guardandolo da fuori, tifi per i più deboli, ma com'è normale che sia. Innanzitutto Prandelli ha detto che ha manifestato la sua simpatia per il Napoli e non per il Milan. In questo non ci trovo nulla di peccaminoso, e mi è piaciuta molto meno, lo ripeto, la reazione che si è avuta da parte di Gagliani. Ma questa è la mia idea, mi è sembrata estremamente inelegante. Poi torniamo a parlarne anche con voi, se volete, siamo qui. Invece di scrivere, chiamate, così il confronto è più divertente. 800 24 00 24. Massimo da Como, buonasera. Buonasera. Dica. Innanzitutto, complimenti per il solito garbo e la vostra competenza. Grazie. Una considerazione ed una domanda. Sì. La considerazione riguarda, a mio avviso, una problematica che esiste nel calcio attuale, che è quella di allenatori che secondo me non hanno l'adeguata gavetta alle spalle per poter allenare squadre importanti. Penso a Leonardo, penso al fatto che possa sicuramente diventare un grandissimo allenatore, ne ha tutte le potenzialità, ma io ritengo che per allenare una squadra di quel livello bisogna aver visto un po' di campi di categorie inferiori, mi permetto di dire. Sì. Visto che il calcio l'ho praticato, sì. E anche per qualche annetto. Sì, ma posso chiederle una cosa io? Secondo lei, a quei massimi livelli, no? Quindi si gestiscono rose molto lunghe, si gestiscono giocatori che guadagnano molti soldi, serve di più un allenatore di campo o un gestore di risorse umane? Mi viene in mente Capello e la sua prima esperienza con il Milan, tanto per dirne una. Ma io ritengo che vengano fuori comunque delle pecche di carattere tattico, sono venuti fuori. Poi dopo la gestione delle risorse, sono d'accordo con lei che in questo calcio è quanto mai importante, però laddove si vedono anche delle pecche di carattere tattico, che mi viene da pensare che poi ci sia bisogno anche di molto campo per ovviarvi. Sì. Io ieri ero a Bergamo e vengo alla seconda parte e ho visto con piacere, io sono granata da sempre, ho visto con piacere Mondonico, e poi ieri sera ho sentito due o tre sue solite acute osservazioni sulla parte tattica, ecco perché mi legavo a questo aspetto, no? Sì. Come ha saputo valutare un movimento dell'attaccante di copertura della palla nei confronti del difensore, questo è il calcio che secondo me ci manca, non ci insegna più calcio. Sì. Un calcio, mi posso permettere di prendere 5 secondi ancora, che diventa sempre più spettacolo e sempre meno attenzione a quello che è l'atto sportivo, a mio avviso. Sì, no, ma hai ragione. Stiamo sfociando sempre più in un calcio che diventa televisivo e prodotto poi mercificabile in tanti modi. La mia domanda è sul Toro. Sì. Come lo vede? Se vede delle possibilità, stiamo soffrendo, io credo che non ci sia una squadra nel panorama italiano che stanno passando quello che stiamo passando noi. Detto questo, siamo sempre più granata. volevo sapere se ci vede nei playoff e in che modo. Complimenti ancora, grazie. Ma complimenti a lei, caro Massimo, tutte osservazioni molto acute. Quanto al Toro, era la parte da tifoso, io credo che il Torino ne abbia passate davvero troppe, anche nella gestione societaria che non è mai stata chiarissima, limpidissima, molto lineare. Come lei saprà meglio di me, il campionato di Serie B secondo me è qualcosa di impossibile da leggere, perché è davvero una maratona troppo lunga. Io dico solo questo: se il Toro arriva nei playoff con la stagione che ha alle spalle, allora diventa lì nei playoff la squadra da battere. So che è una risposta un po' democristiana, però è l'unica che mi sento di dare, perché il resto è veramente impossibile da capire, secondo me. Quanto al resto sono d'accordo, e aggiungo una cosa, ma ad esempio un allenatore come Mondonico, che è un professore di calcio, a me piacerebbe una volta nella vita vederlo allenare una squadra giovanile. Un allenatore come Mondonico, come molti altri che magari sono a spasso, che magari sono in cerca di una panchina per qualche mese, piacerebbe molto vedere allenatori di questo spessore tornare a lavorare con i giovani. Probabilmente non ci riuscirò mai, è un'utopia forse, ma rimane lì. Saluto e ringrazio Stefano Benedetti. Ciao Stefano. Ciao Carlo, buonasera a tutti. E la pagella continua a correre sul web, che in questo caso è di nuovo quello laziale di cittaceleste.it sulla partita di oggi. E io ti chiedo innanzitutto un voto alle prospettive di salvezza del Parma. Ma alto. Alto? Guarda, davvero? Abbastanza alto, perché la Lazio nel primo tempo, dopo essere andata in vantaggio, ha subito tre palle gol negli ultimi 15 minuti finali della prima frazione, e soltanto un grande intervento di Muslera sul tiro di Giovinco e un briciolo di fortuna da parte della Lazio hanno impedito il pareggio al Parma. Poi nel secondo tempo il Parma non è stato più aggressivo come nella parte finale della prima frazione e Rey ha trovato il jolly sostituendo Zarate con Floccari che ha segnato il gol della tranquillità e con la partita che si è chiusa per 2-0. Invece un voto alle prospettive di Champions della Lazio a questo punto e a quest'ora? Guarda, ti dico, non è facile perché in questo momento si può dire che un calendario è facile o meno facile sulla base di un discorso che ci porta a dire che un campionato è facile se si incontreranno delle squadre che non avranno più obiettivi da raggiungere. Certo. Perché nelle ultime 6 partite succede praticamente tutto il contrario di tutto, ma tutto nel lecito, intendiamoci. Uh-huh. Però insomma, se incontri domenica, come è successo oggi per il Genoa, no? che ha rischiato di vincere, ma poi è stata sopraffatta dalla Juventus. Domenica la Lazio per esempio andrà a Catania e da questo punto di vista forse incontrerà una squadra tra virgolette facile rispetto al discorso che ti avevo appena fatto. Però poi dovrà incontrare l'Udinese, dovrà incontrare l'Inter, insomma dovrà incontrare squadre importanti ancora, la stessa Juventus allo Stadio Olimpico. Sì. Quindi nelle ultime 6 partite la Lazio dovrà incontrare sì il Catania, dovrà incontrare il Lecce nell'ultima partita, dovrà incontrare il Genoa. Certo. Ma dovrà incontrare soprattutto l'Udinese, ripeto, l'Udinese, la Juventus e l'Inter in partite che comunque per gli avversari avranno molto da dire. Quindi voto basso al calendario della Lazio, mi dici? Allora, voto difficile al calendario della Lazio, Lazio che però con 10 punti secondo me potrebbe in questo momento, che ha ritrovato il quarto posto in classifica, acciuffare il quarto posto. Il quarto posto. Un'ultima cosa, invece un voto al gol di Hernanes di oggi, secondo me è il più bello di giornata. 7 solo? Alto. No, 7. Non esageriamo, i fenomeni stanno in Spagna, a Barcellona. Sei un professore severissimo. Stefano, io ti ringrazio, settimana prossima magari apriamo qualche altro sito e qualche altra pagella. Anche sì, grazie a Stefano Benedetti. Cittaceleste.it in questo momento si trova tutto il dopo partita, dalle foto ai commenti alle pagelle, per un sito che sforna 42 notizie al giorno. Grazie Stefano, un abbraccione. Ciao ragazzi. Grazie a Stefano Benedetti. Subito dopo il traffico ripartiamo da Treviso con Gerardo. 800 24 00 24 è il numero verde. Strade in diretta. Buonasera, aumenta il traffico provenendo dalle località di Villeggiatura per i primi rientri del fine settimana verso le grandi città e non mancano gli incidenti. Sulla 8 Milano-Varese si incontrano code di 5 km dopo un incidente verso Milano tra Gallarate e Castellanza. Sulla diramazione Gallarate-Gattico rallentamenti per traffico intenso verso la 8 tra Castelletto Ticino e Besnate. Andiamo sulla A14 Adriatica, anche qui il traffico è in aumento lungo la riviera romagnola in direzione di Bologna, ci sono code anche per un incidente risolto tra la diramazione per Ravenna ed Imola. Sulla A7 la Milano-Genova si rallenta dopo un incidente tra Castelnuovo Scrivia e Gropello Cairoli per il traffico diretto a Milano. Andiamo in Liguria, molto intenso anche in questo caso il traffico, sulla A10 Genova-Ventimiglia ci sono code verso Genova tra Pietra Ligure e Savona e tra Celle Ligure e l'allacciamento con la A26 dei trafori. Nella stessa direzione code a tratti sulla A12 tra Chiavari e il bivio per la A7 Milano-Genova, sempre sulla A12 verso Genova le code per lavori tra Rosignano Marittimo e Colle. Aumenta il traffico ora anche in direzione della capitale, prime code per traffico sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e l'innesto con il grande raccordo anulare e sulla diramazione Roma Nord a partire da Sette Bagni. Traffico intenso con code a tratti tra Veneto e Lombardia in direzione di Milano sulla A4. Ed è tutto, a più tardi. Promo 24. Essere all'avanguardia significa cercare di migliorarsi, sempre. Audi presenta la nuova Audi A6, la berlina business di maggior successo al mondo. Un concentrato di tecnologia ed innovazione per una dinamica di guida e comfort senza pari. Grazie alla costruzione ibrida leggera con acciaio e alluminio, Audi si è superata ancora una volta. Il risultato è una carrozzeria più leggera rispetto al modello precedente, con tutta la sicurezza che Audi sa garantire. Grazie ai principi della costruzione leggera, Audi A6 berlina offre un design più dinamico e una maggiore efficienza per consumi ridotti sino al 21% rispetto al modello precedente. Audi A6 berlina è disponibile in 5 motorizzazioni, 2 a benzina e 3 TDI. Maggiori informazioni su audi.it. A tempo di sport. Come prima annunciato, Gerardo da Treviso, che saluto. Buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Io no, volevo dire la mia riguardo al commissario tecnico Pratelli, sì, e Galliani. Sì. Cioè, io sono tifoso del Napoli, però credo che oggi come oggi viene spontaneo simpatizzare per una squadra come il Napoli. Sì, è quello che ho detto anch'io, è quello che esatto, penso anch'io. Il Milan primeggia da tanti anni, ha un parco giocatore che costa un'infinità di soldi, mentre il merito di Mazzarri, che ha fatto un gruppo, ha composto una squadra, diciamo, di combattenti che non mollano mai fino all'ultimo. Quindi, se si può incolpare Prandelli per aver espresso una cosa del genere... Sì, non vedo questa cosa. No, beh, ma sa, lei la guarda da una prospettiva parziale, la sua corretta, non di tifoso del Napoli, quindi non può che far piacere. Ma io mi domando se soprattutto i milanisti sono così indispettiti per delle dichiarazioni del commissario tecnico. Io non ci trovo nulla di male. Io preferisco anzi un uomo di calcio che dice: mi piace come gioca il Napoli, mi piace come fa giocare la squadra Mazzarri, se arrivano fino in fondo sono contento. Mi sembrano dichiarazioni anche abbastanza normali, no? Solo che qui scatta subito la telefonata indispettita perché Prandelli se ne deve stare zitto. Non vedo per quale ragione, sinceramente. Galliano, che ruolo occupa nel mondo del calcio o ha occupato in Lega? No, ma infatti, ma lei avrà potere sentito... al palazzo del calcio che non indifferente una squadra. Che no, ma guardi, certo, ma lasciamo stare queste cose, lasciamo pure stare le posizioni di potere, i giochi di potere. Ho trovato piuttosto antipatico e volgarotto come gesto quello di alzare il telefono e chiamare il capo di Prandelli per dire che credo grosso modo che quello se ne stia zitto. Quindi l'ho trovato di cattivo gusto, semplicemente questo, e domando soprattutto a chi guarda il Milan con simpatia se quelle dichiarazioni di Prandelli sono state così fastidiose. Intanto io ringrazio Gerardo da Treviso ed è un grande piacere parlare con una grande voce come quella di Michele Serra. Buonasera Michele, grazie. Buonasera, grazie per la grande voce, anche se è un po' imbarazzante. No, non dire così. Senti, ma l'Inter sgonfia, te l'aspettavi? La palla che si sgonfia in prossimità della linea di porta, te l'aspettavi? Allora, essendo il tifoso un demente, lo dico con affetto e autoaffetto anche, quindi sì, una persona quasi sempre sprovvista di ogni facoltà razionale, no, ovviamente pensavo che l'Inter avrebbe vinto per i prossimi 15 anni, con Maicon 45enne, Milito 50enne, eccetera. Dopodiché, quando arriva lo schiaffo della sconfitta, uno guarda in faccia le cose e capisce che insomma invece i cicli ci sono, sì, e che la squadra che vince per 5 anni quasi tutto, poi nella storia del calcio... È fisiologicamente così. Si logora, poi adesso... Non so se sia anche l'anagrafe o se sia l'appagamento, ma insomma ecco, nel calcio come nella vita non si può vincere sempre. Quindi insomma sono se anche non vincesse nulla quest'anno, un po' come dispiacerebbe, ma me ne farei una ragione. Ma anche perché secondo me, al di là degli occhi del tifoso, a leggerla così, l'Inter è a 2 punti dal primato in campionato. L'unica vera partita stortissima è stata quella di Champions, e lì io sinceramente ho detto prima, qualche ascoltatore si è indispettito, Leonardo dice crediamo in tutto ma non raccontiamoci le favole, che il Senkir che non puoi andare con la speranza di uscire realisticamente ancora in corsa. Però la stagione tutto sommato fin qui non è stata poi così negativa, no Michele? Ma in campionato la differenza l'hanno fatta i due derby, insomma è quello di andata francamente è stato perduto anche tanto per un gol incredibile sbagliato, mi sembra da Milito se non ricordo male, sì. E, ma sì, insomma, la differenza fondamentale tra le due squadre sono state i due derby, per il resto mi ha fatto qualcosina in più l'Inter, però insomma i derby purtroppo fanno parte del calendario, non si possono estrapolare dal contesto, insomma. Ma poi se io penso sempre che nel calcio tutti sottovalutiamo molto anche diciamo il caso, se non vogliamo dire la fortuna. Ma certo. Cioè, ci sono delle circostanze che sono anche, insomma, c'è un capello che ti separa, un capello non nel senso della di Fabio. Ecco, c'è un sottilissimo varco attraverso il quale puoi passare e puoi anche non passare. Insomma, l'Inter di Mourinho è stata formidabile, ma anche fortunata. Una squadra sfortunata non può vincere. Quanto brava sia, eccetera. Cioè, ecco, questo viene molto sottovalutato, ma nel calcio uno degli aspetti anche più belli. Sì, tutto sommato sì, perché non è razionalizzabile, non è calcolabile. Fai palo invece che far gol e ti cambia una stagione. Quindi... Perché il calcio fa impazzire così tanta gente per queste ragioni, perché non è sintetizzabile in numeri, lo sappiamo bene. Certo. Michele, certo. Io volevo chiederti invece un parere tuo su questa questione su cui sto dibattendo con gli ascoltatori. Dicevo Prandelli che dice: ma il Napoli mi è simpatico se vince, tutto sommato sono contento, grosso modo. Sì. Gagliani che alza il telefono e chiama il suo capo. Secondo me la reazione è stata molto meno elegante, molto meno condivisibile dell'azione. Non ci trovo nulla di male che Prandelli dica quelle cose. Ma sì, ma anche perché poi è gioco forza, insomma, si tiene per insomma, esiste un tifo nazionale diffuso, diciamo, al di là del tifo per la squadra del cuore, che è quasi sempre per la squadra che ha vinto di meno, che è più debole. Insomma, io penso che all'80% degli italiani, milanisti esclusi, e piacerebbe molto che il Napoli vincesse lo scudetto, ma non per ostilità verso il Milan, certo. Perché funziona così, e quando vinse lo scudetto il Verona e il Cagliari ce lo ricordiamo ancora. Sicuro. Eravamo felici molti molti milioni di italiani, insomma. E la reazione di Gagliani? La reazione di Gagliani, adesso non voglio fare l'intervista d'ufficio, è brutto. La reazione di Gagliani non è sportivissima, insomma, è un po' sopra le righe, e Gagliani è molto tifoso e quindi ogni tanto mi sembra di ricordare qualcosa a Marsiglia, o mi ricordo male? No, lo ricordi malissimo. No, ecco, tra l'altro poi, visto che si tenta da giornalisti poi di approfondire le cose, mi ha colpito molto che una dichiarazione, mi sembra di Maldini recente, sui fatti di Marsiglia, insomma, attribuiva la responsabilità di un gesto così vergognosamente antisportivo non a Gagliani, ma a chi sarà più in alto. Sì, sì. Sai com'è, queste sono cose, poi i tifosi sempre male, no? No, però mi veniva in mente uno di casa tua invece, un'altra reazione di quelle del tipo chiamo il tuo capo, quella di Eto'o, che a me non è piaciuta tantissimo, l'avrai sentita, col cronista camerunese, che Eto'o che impazzisce di rabbia, dice: tu non meriti di lavorare, io adesso chiamo il capo della tua televisione e ti faccio licenziare. Ecco, lì mi è piaciuto un pochino anche Eto'o. Insomma, chiunque fa il bullo insomma, nello sport, soprattutto se poi è in posizione, diciamo, baciata dalla sorte, quindi le cose gli vanno bene, è forte, è bravo, cioè forse è più difficile saper vincere che saper perdere, no? Perché se uno perde va un pochino in crisi di nervi, vabbè, c'ha le sue brave giustificazioni. Ma chi è in posizione di forza dovrebbe avere la forza dei nervi distesi, della calma, della sicurezza in se stesso. Quindi mi meraviglia molto da parte di Eto'o, perché insomma l'immagine che sia di lui è... Certo, questo sì. Non è certo di un giocatore scorretto, antisportivo, anzi è uno dei pochissimi che gioca sorridendo, a me piace molto anche per questo. Questo è vero. Così, infatti... così come i musicisti brasiliani sono gli unici che suonano e cantano sorridendo, lui non mi risulta ci siano altri giocatori che giocano a pallone sorridendo. C'era Ronaldinho che sorrideva molto ma giocava a pallone un po' meno. Ma non c'è dubbio, poi penso che avesse un problema di rictus, non so, aveva una specie di espressione fissa, ecco, quindi non è che sorridesse. Era un tic nervoso, dici? Era un tic nervoso. Era una specie di tic, sì. Poi a pallone ha giocato veramente poco ed è un peccato, perché tra l'altro quando ha giocato a pallone, insomma, si sono viste cose memorabili, cose, no? Carine, sì. Però ha giocato pochino, sì. Michele, prima di salutarti, ma Leonardo lo teniamo o non lo teniamo dal punto di vista tifoso interista? Io, diciamo, non faccio pa- parte di quelli che decidono, sono proprio lui il classico tifoso da bar. Io lo terrei, ma per ragioni talmente appunto da bar, quindi puerile, lo terrei perché mi è simpatico, lo terrei perché quando se n'è andato dal Milan, insomma, è uno dei pochi dipendenti di Berlusconi che ha avuto il coraggio di dire fuori dai denti quello che pensava, sì, del suo capo, sì, diciamo, che l'ha giudicato invadente oltre illecito, e quindi sono tutti motivi che me lo fanno risultare molto simpatico. Poi può darsi che tecnicamente ci sia chi è più accorto di lui, per carità, però sì, insomma, io sono di quelli che se lo terrebbero volentieri. Grazie Michele, un abbraccio. Grazie a voi, ciao, arrivederci. Un piacere sempre con Michele Serra, ma anche con Luigi da Milano e Marco da Roma, che sono i prossimi due ascoltatori. Luigi, buonasera. Buonasera, ottima la vostra trasmissione, una delle pochissime figure sportive. Grazie. Che si ascolta volentieri. Grazie. Allora, proviamo a divertirci tutti insieme. Veramente, anche il collega Garanzini, mi riferisco a come ha chiuso la trasmissione di lunedì dicendo che il Napoli, io sono tifoso del Napoli, non può vincere il campionato anche per i tre, non solo, ma anche per i tre punti di distacco. Però alla fine trasmissione non ha spiegato perché. Allora, razionalmente, anche per smentire il grande Serra, posso condividere, però vorrei la sua opinione. La seconda cosa è che non si vincono tante partite nei secondi tempi se non c'è una condizione, sì, atletico-fisica superiore, nel caso del Napoli, che oggi quasi ha deluso i tifosi perché ha sistemato la partita nel primo tempo. Le chiedo quanto vede il Napoli in vantaggio sulle due concorrenti in queste ultime sei finali, come dice Mazzarri, cioè ha ancora una condizione atletico-fisica forse superiore? Ma guardi, la cosa più sorprendente del Napoli è che non ha mai avuto cali significativi. Ha avuto dei anche infortuni in un campionato dove sono tutti rossi. Sì. No, ma è vero, ma la cosa più sorprendente, il vero segreto di Pulcinella, che mi sembra il caso, del Napoli è proprio questo. Cioè, il Napoli non ha avuto grandi problemi di infortuni, il Napoli ha avuto una condizione fisica pressoché ottimale fin qui per l'intera stagione. Ci sono state un paio di flessioni che non so a quanto siano imputabili alle gambe, quanto alla testa. Certamente alcune flessioni imputabili all'assenza di giocatori, e questo è il grande limite dei quali il Napoli non può fare a meno. Mi viene in mente la sconfitta a Verona con il Chievo, mi vengono in mente le partite giocate senza Lavezzi, eccetera eccetera. Il Napoli non può prescindere dalla perfezione dell'undici titolare, no? Quindi se manca qualcuno, soprattutto se manca uno di quei tre, i problemi sono grandi. Però è sorprendente la condizione fisica che il Napoli ha avuto fin qui, perché lei ha ragione, non c'è mai stato un momento in cui il Napoli ha dato l'impressione di essere sulle gambe dal punto di vista fisico. Vediamo se la benzina è sufficiente fino alla fine della stagione, chi ne avrà di più e tutte queste belle cose. Però a bocce ferme bisognerà analizzare, quindi dare l'Oscar alla stagione a chi ha preparato atleticamente questo Napoli, sia sul fronte infortuni che sul fronte tenuta. Sarà un bell'argomento di cui parlare magari al di fuori delle costrizioni della cronaca. Ci fermiamo adesso per un attimo, poi torniamo. 800 24 00 24, il numero verde. Sono Giuseppe Carnevali, presidente di Navionics. La nostra società è leader nella produzione di sistemi e cartografie per la navigazione. 3 anni fa, per le nostre telecomunicazioni, ci siamo affidati a Welcome Italia per l'efficienza delle linee e per il servizio clienti, che risponde sempre in 3 squilli. Con Welcome Italia la nostra rete è sempre aggiornata, proprio come le nostre cartografie elettroniche. Per non perdere la rotta, affidatevi quindi alle nostre mappe. Ma per le telecomunicazioni della vostra impresa, vi consigliamo Welcome Italia. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazioni per la vostra impresa. Scopri la differenza. Chiama l'800-945-945 o visita il sito welcomeitalia.it. La vera grandezza si esprime in ogni piccolo particolare. Sa offrirti spazio senza occuparlo, sa darti il lusso senza essere mai eccessiva. La vera grandezza ha diversi punti di vista, considerateli tutti. Nuova Lancia Delta Gold, contenuti da ammiraglia, dimensioni da compatta, nuovo design, nuovi interni, nuovo motore diesel 1.6 multijet 105 cavalli, cerchi in lega, Blue ME, clima bizona, nuova gamma Delta a partire da 17.900 euro. Scoprila sabato e domenica. Offerta valida con il contributo dei concessionari Lancia aderenti fino al 30 aprile. Io scrivo per trasmettere emozioni, idee, storie. Io scrivo, il corso del Corriere della Sera per migliorare e perfezionare la tua scrittura. È in edicola il secondo volume con la video intervista Nicolò Ammaniti. Scrivere bene, adesso puoi con Io scrivo. Vado a Miami, parto lontano, lascio a casa tutto e prendo l'aeroplano. New York, Boston, Montreal o San Francisco, non importa dove si va, con Swiss tutto bene andrà. Basta prendere un volo Swiss International Airlines, per esempio per New York da 429 euro. Andate e ritorno da Milano, tasse e supplemento carburante inclusi. Prenota subito su swiss.com. Il mio primo socio, dopo un po' ho scoperto che non era affidabile. L'altro non reggeva il peso del lavoro. Oggi ho scelto Ford Transit, una garanzia per 200.000 chilometri. Ford Transit, socio inseparabile. Da oggi con garanzia Ford Protect, 5 anni o 200.000 chilometri, disponibile su tutta la gamma. Transit Van 2002 TDCI con clima e radio CD a 14.000 euro, per tutti, anche sabato 16 e domenica 17. 01 Distribution presenta. È successa una cosa enorme! Il nuovo film di Nanni Moretti. Nessuno ha mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere. Senta, ha problemi con la fede. Abemus Papam, dal 15 aprile al cinema. A tempo di sport. Torniamo con Marco da Roma. 800240024, numero verde. Marco, mi sente? Eccoci, buonasera a lei. Senta, io premetto che sono un tifoso della Lazio. Sì. Però, come diceva il buon Totò, signori si nasce. La reazione di Galliani alle parole di Prandelli, secondo me sono dettate dalla paura di perdere il primato. E Prandelli è, credo, uno dei tecnici più simpatici e schietti, perché è riuscito nell'impresa di riavvicinare gli italiani alla nazionale dopo il flop del Sudafrica. Scusi Marco, però le chiedo una cosa, quale correlazione c'è tra la paura di perdere primato e le parole di Prandelli? Prandelli non fa perdere primato a nessuno, cioè Galliani ce l'ha di suo la paura e quindi ha il nervo scoperto, esatto, questo vuol dire? Esatto, perché di solito la paura fa reagire male. E allora, sentendosi nominare il Napoli di qua, il Napoli di là, anche perché si rende conto che il Milan senza lo svedese non è niente, zero. Bene, il derby non sembrava. Abbiamo visto anche l'Inter il mercoledì dopo quello che è successo. E anche in quell'occasione il signor Moratti, premetto, che a me non mi hanno fatto niente, né l'uno né l'altro, Moratti ha reagito da signore senza dire su nessuno. Invece, cioè, prendere il telefono, chiamare a Bede, forse è una dimostrazione di potere, non lo so, chi ha voluto dimostrare? Non lo so. Io, fossi stato io in Prandelli, mi sarei rimesso all'istante. Addirittura, no, non c'erano le condizioni, però notiamo come, si può solo notare come certamente non è stato un gesto simpaticissimo, non so se è dimostrazione di potere, se è paura, non so dove stiano le ragioni, semplicemente io non trovo nulla di scandaloso in un commissario tecnico che dice quelle cose, ma c'è anche stato anche Mourinho che ha tirato per i capelli una polemica di questo tipo con Lippi, ve lo ricordate, molto pretestuoso in quel caso. Lo trovo un gesto, se mi permettete, molto italiano tra mille virgolette. Fabio da Vicenza, grazie Marco. Fabio, buonasera. Buonasera, io premetto che non sono un tifoso, sono sportivo per tutti gli sport, quindi anzi, non seguo in particolare il calcio. Preferisco altri sport, la Formula 1, l'atletica. E quindi i miei ricordi anche per il calcio sono legati a episodi. Io quando sento parlare di Galliani mi viene subito in mente l'episodio di quella volta che è sceso in campo facendo uscire i tifosi del Milan perché si erano spenti i giocatori. Sì, ne abbiamo parlato anche prima, il famoso episodio di Marsiglia. Rimane il fatto che signori non si diventa, si nasce, e ogni volta c'è una caduta di stile che oltretutto non mi sembra da Milan, perché in genere Milan è sempre stata una squadra come la Juventus, ovviamente con certi alti e con certi bassi, che si è sempre contraddistinta per un certo profilo alto di comportamento in genere. Galliani continua a fare, anche se delle volte probabilmente qualcuno gli mette il il morso o comunque qualcuno lo tenta tenere fermo, rimane quello che è, rimane una persona che nell'istinto si comporta in maniera non molto signorile verso se stesso, verso la squadra e verso gli altri sportivi o comunque gli altri pretendenti a fare lo scudetto. Cioè, lei dice si comporta un po' troppo da tifoso quando... Ecco, un po' troppo da tifoso e anche da capo. Qual è peraltro? Insomma, qual, esatto, qual è, va bene, d'accordo, ma basta ammettere, basta dirlo. No, guarda, no, non ha di essere sportivi. Ma non c'è... basta guardare le... Fabio, basta guardare le immagini, non c'è bisogno di alcuna ammissione, no? Ma che Galliani sia stratifosissimo del Milan, vabbè, è nella logica, è la realtà, no? Negata da nessuno. Stiamo discutendo di una reazione, secondo me, spropositata rispetto all'azione in questo caso. Tutto qui. La ringrazio. Franco, provincia di Vibo Valentia. Buonasera. Sì, buonasera. Senta, io volevo parlare anch'io di questo fatto qui di Galliani che ha rilasciato queste dichiarazioni. Io sono tifosissimo del Milan e sicuramente avrei fatto a meno, fossi stato Galliani, a rilasciare quelle dichiarazioni, perché non portano altro che antipatia alla nostra squadra. Le premetto che chiamare, sono stato a vedere. Lei dice di chiamare Abete, avrebbe fatto a meno. Assolutamente, perché non facciamo altro che attirare antipatia, come se già non ce ne fosse già abbastanza per vari motivi, sul Milan. No, ma quello che io voglio capire da lei, tifoso del Milan, ma lei dà fastidio se il CT dice cosa che non ha detto tifo Napoli? Assolutamente, anche è un problema. Condiziona qualcuno o qualcosa? Cioè crea qualche turbativa? Ma assolutamente, perché il Napoli fa le sue partite come le fa il Milan, quindi non c'è bisogno di condizionamenti o altro, anzi a me è molto simpatico anche il Napoli, per cui se non dovesse vincere il Milan avrei piacere dove vincesse il Napoli, dico la verità. E poi sono stato in occasione di Milan-Napoli a Milano, abbiamo fatto una sorta di gemellaggio con i tifosi del Napoli, noi del Milan, siamo entrati tranquillamente insieme e siamo usciti scambiandoci, anche un amico si è cambiato anche la sua sciarpa con uno del Napoli, quindi non c'è nessun tipo di accanimento, assolutamente. Ma ci mancherebbe altro che ce ne fosse. Anzi, se non dovesse vincere il Milan mi farebbe tanto piacere dove vincere certo, il Napoli. Certo, certo. No, ma poi ci sorprendiamo, anche io ogni volta rimango sorpreso di questo, ci sorprendiamo della normalità, che si entra allo stadio insieme dovrebbe essere... Vabbè, ma qui apriamo altre storie, altri filoni, altri discorsi. Signore e signori, allacciatevi le cinture di sicurezza. Filippo Maria Ricci, buonasera. Buonasera. E adesso ci siamo, Si comincia dalla settimana prossima il Real Barça infinito. Sì, è l'ultima volta che ci sentiamo prima dei classici. Prima delle bombe. No, quello che dicevo ieri, nel programma di ieri si ragionava con una superstar dei tuffi italiana, che è stata mia ospite ieri, Francesca Della Pè, compagna di Tania Cagnotto, con Andrea Zorzi, con tutti gli ospiti che avevo. E si ragionava su questi cartelloni pubblicitari del Barcellona, no? Che conoscerai bene, sugli autobus con le cinque mani, con le cinque manite, no? E dicevo, chissà cosa dirà adesso Mourinho. Qualcuno diceva, no, ma non dice niente, non risponde. Mourinho non si è presentato in conferenza stampa né sabato né domenica, noi lo aspettavamo molto volentieri. Ha mandato Beppe Baresi anche lì? Sì. Poi ci assomiglia sempre di più, dovete vedere, guarda, Carranca è quasi uguale ormai, una metamorfosi tremenda, Ma... Sì, no, fisicamente gli assomiglia un sacco ormai. Ma prima o poi parlerà. Certo, no, deve parlare per forza martedì. Per forza. In Champions. In Champions è obbligato. Esatto, prima e dopo. E poi venerdì, prima del classico. Sì. Prima di questo classico, che secondo me sarà una grande bugia. Descaffeinato, come dicono qua? Secondo me piace questo descaffeinato. Piace moltissimo. Però comunque qualcosa lascerà sul campo. È vero che il titolo è assegnato. Sì. Però dipende come va a finire. Dipende chi gioca. Dipende cosa succede. No, qualcosa dovendo giocare, c'era una partita secca, non contava nulla. Certo. Però, visto nell'ottica di quattro partite, certo, ha il suo peso. E si gioca la prima, che non conta nulla, che conta molto relativamente. Quindi io immagino che quella partita sarà una partita di schermaglie mentali. Sarà un mind game, come dicono però, gli inglesi. Se qualcuno magari si fa male, se c'è una decisione controversa, insomma, se c'è una polemica in più o in meno, per me alla fine invece influirà. E Cacà che è tornato? Attenzione, eh? Attenzione. Era una delle migliori partite da quando è in Spagna. Così, e poi è dal nulla, perché non giocava da un mese, aveva deciso lui di non giocare, aveva dei dolori. Torna e tira fuori una prestazione vintage. Ma si è fatto la barba? Sì, ieri mi sembrava più ripulito. Sì. Ieri in questi giorni ne ho sentiti di tutti i colori, compreso il fatto che era un messaggio al suo sponsor, noto produttore di rasoi, che non gli ha ancora rinnovato il contratto. Siamo alla follia. Vabbè, comunque sono cose, come si può dire, che non fanno male, via, no, ma fanno benissimo. Fantastico. No, ieri Riccardino ispiratissimo, e adesso no, Mourinho ha di che scegliere, perché comunque se dovesse continuare a giocare così Kakà va tenuto presente. Sì. Secondo... Non per il classico di sabato, ma non lo so, oppure per questo sì e non per quello di Coppa, però c'è anche Higuain, Benzema che torna, De Bayor, cioè, diciamo che il Real Madrid è in netta ascesa, mentre il Barcellona è in discrete difficoltà. Sì, la sensazione è che Mourinho, conoscendolo un po', nelle partite che contano, che poi sono la Coppa del Re, soprattutto le due di Champions League, ormai certe, no? Si affiderà ai suoi giocatori, quindi io non vedo grandi spazi per tutte queste alternative, perché lui è così, cioè, ma fa bene, si affida a quelli. C'è un quesito tattico, perché lui all'andata, quando poi perse 5-0, lui voleva giocare col famoso trivote, cioè far giocare anche Diarra insieme a Khedira e Xabi Alonso, poi dice qua non va bene, non si fa, non lo fa e finisce come sappiamo. Manita. Adesso ci sta di nuovo ripensando, ieri per esempio ha fatto giocare Pepe a centrocampo, che è un'ipotesi interessante, e vediamo come deciderà di giocare queste, soprattutto la partita numero 2, 3, 4. Sì, no, certo, non c'è dubbio. Il sottomarino giallo invece, cui ci affida, ormai l'Europa per noi è affidata a singoli rappresentanti, Ancelotti mi sembra già discretamente fuori, in Europa ci resta Pepito Rossi e il suo Villarreal. Lo abbiamo moltissimo, noi italiani. È un bel andare. No, Giuseppe Rossi 9 gol, il Villarreal gioca bene, diciamo che è una buona squadra da tifare, e a me fa piacere, il ragazzo se lo merita, da noi fa panchina perché gioca Cassano, però insomma queste sono altre storie, no? Queste sono altri film, questi sono altri no, film, mi sembra giusto così più o meno visti, però sì, è l'ultimo nostro rappresentante, probabilmente va a fare, gli ha detto male col sorteggio perché deve fare la semifinale, la farà col Porto, sì, che probabilmente è una delle migliori squadre europee. No, ma sai un argomento interessante, magari un giorno che hai tempo che inviti a pranzo Mourinho, cioè i semi che ha piantato in Portogallo, perché il Villarreal di Pepito Rossi rischia di essere assediato, vediamo cosa fa il Braga, ma in linea di massima passerà il turno e ci sarà il Villarreal contro tre portoghesi, tre squadre portoghesi nelle quattro semifinaliste di Europa League. Carlo, però è una competizione che non vale niente, noi la snobbiamo. Ma va, figurati, cosa vuoi, dai, cosa vuoi, cioè, che conti? Ma che cosa competizione vuoi? È, no? Cioè, ma noi certo. In Italia vinciamo, abbiamo sempre vinto l'Europa League, cioè, quest'anno abbiamo lasciato ai portoghesi, dai. Tu sei normale, no? Villarreal è venuto a giocare, il Napoli è venuto a giocare a Villarreal senza Cavani, perché poi doveva andare a giocare col Milan, no? Sì. Sì, ricordi bene. No, tu fai così, poi gli ascoltatori me li smazzo io, mi rilasci di tutti. Vabbè, io sono in Spagna, dai. La vediamo diversamente, tu digli così, no, ma sai, quello è emigrato tanto tempo fa, vede il calcio in maniera diversa. No, e voglio chiederti ancora una cosa invece, prima del traffico, che magari è ritardo 30 secondi, ne parlavo prima con Michele Serra, di quella reazione, parlavamo di azioni e reazioni, e Prandelli che dice tipo Napoli e Galliani che chiama il suo capo. Prima parlavo con Michele Serra di Eto'o, che invece da fuori, ma come sai meglio di me, di fronte a quel giornalista camerunese, ma con toni molto brutti, molto, molto antisportivi, molto antipatici, molto da padrino, insomma. Chiamo il tuo direttore e ti faccio licenziare. Tu, uno come te, non merita di lavorare. Non una. Sì, il povero cronista di Equinox Radio o TV. Sì, Eto'o c'era queste cose soprattutto quando va a casa. In Camerun Eto'o ovviamente è una specie di semidio e quindi si può permettere di dire questa cosa. La domanda era idiota, questo d'accordo, però sì, probabilmente anche in Italia gliene fanno di domande idiote. Sì. E la reazione ovviamente è diversa. È lì lui è il padrino, sì. C'è poco da aggiungere. E il padrino si comporta di conseguenza, guai a chi tocca gli semidei. Grazie Filippo, un abbraccio. A voi un abbraccio. Tieniti forte Filippo Mararicci, che ci siamo con il classico mondiale globale totale dalla settimana prossima su questi schermi, anche con Filippo Maria Ricci. Traffico, poi torniamo qui. Giulietta, l'auto più sicura della categoria, con nuovo motore diesel JT DM2 da 140 cavalli. Vi presenta Strade in diretta. Sull'auto Milano-Varese traffico intenso provenendo dai laghi e un incidente risolto provocano code verso Milano a partire da Gallarate fino a Legnano. Traffico molto intenso anche lungo le riviere, specie in Liguria. Sulla 10 Genova-Ventimiglia verso Genova ci sono code tra Pietraligure e Savona e tra Celle Ligure e l'allacciamento con la 26 dei Trafori. Nella stessa direzione code a tratti anche in A12 tra Chiavari e il Bivio per la 7. Sempre sulla 12 verso Genova le code per lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla 14 Adriatica si resta in coda per traffico intenso tra Faenza e Imola per il traffico diretto a Bologna. Aumenta il traffico verso la capitale, ci sono code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e l'innesto con il Grande Raccordo e sulla diramazione Roma Nord a partire da Sette Bagni. Traffico intenso e cantieri complicano gli spostamenti anche tra Veneto e Lombardia sulla A4 tra Soave e Verona Est e tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano. È tutto, a più tardi. A tempo di sport. Dunque, torniamo insieme per il finale da tempo di sport. Se volete venirci a fare compagnia telefonicamente, vale sempre lo stesso contatto: 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666. Poi parliamo anche di basket, anzi tra poco ci colleghiamo con gli Stati Uniti e parliamo di basket NBA, perché siamo al finale della stagione regolare, quindi al disegno delle griglie di playoff, a tante storie che si incrociano, a due italiani, e non era mai accaduto contemporaneamente, che vanno a giocarsi i playoff, ovviamente senza chance di titolo, però mai era successo di trovare due italiani contemporaneamente, sono Bellinelli e Gallinari, insieme nei playoff NBA. Intanto, dicevo più tardi, parliamo anche di basket dalle 8:30 alle 9 ogni domenica per raccontarvi la giornata di campionato. Maria da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Sono una vecchia tifosa del Milan. Sì. E sono contenta se l'Inter perde. Perché? Perché sono stufa. L'Inter è di Moratti, il Milan è di Berlusconi. Tutti questi politici sono andati alle partite e hanno rovinato il calcio. Sì. Beh, Moratti no. Politico fino a un certo punto, imprenditore, Berlusconi, altri sentieri. Ma la moglie, l'abbiamo per sindaco. Sì, d'accordo, vabbè, ma... non è esattamente il sindaco di Milano, la moglie di Massimo Moratti, ma comunque non mi sembra c'entri molto con la politica, ma voglio dire che faccia il tifo per il Napoli è del tutto legittimo, ma come credo molti, credo che in questo momento... Cara Maria, il Napoli sia la squadra più trasversale d'Italia ed è per questo che valgono tutti i discorsi che abbiamo fatto prima. Tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, se il commissario tecnico vuole dire quelle cose, non c'è bisogno di chiamare il superiore. Vale sempre lo stesso discorso. Tutti quanti non tifano Milan, credo che oggi, o Inter che è ancora in corsa, poi vediamo che succede. Insomma, credo che il Napoli in questo momento sia la squadra più trasversale d'Italia. Sempre a proposito di azione, reazione, visto che stiamo parlando di basket, conoscerete un fatto di cronacaccia orrenda della settimana, quella degli insulti a sfondo razziale di Como. A proposito di azione e reazione, inutile tornare sulla cronaca, su quello che è successo l'altra sera con questi quattro deficienti che insultano in maniera violenta una giocatrice italiana di Parma, nata in Italia, laureata negli Stati Uniti, una che conosce sei lingue, una che ha una cultura notevole, una ragazza di sport, italiana, ripeto, che gioca in nazionale, e allora vanno avanti per tutta la partita ad insultarla. Questa è l'azione, la reazione di questa giocatrice, Viola Gabara, che finisce la partita estenuata da questi continui insulti, mostra il dito medio, viene trattenuta a stento, eccetera. La cosa peggiore, però, leggo anche oggi, non finendo mai di sorprendermi, peraltro, la cosa peggiore è stato il comunicato che la Comense, cioè il club a cui appartenevano questi quattro dementi, ha pubblicato sul suo sito un comunicato in cui scrive: se Wabara è stata insultata e sputacchiata, è stato certamente grave episodio di inciviltà, naturalmente non ascrivibile alla Comense. Naturalmente non ascrivibile, noi non c'entriamo niente. Se questi qui che ci accompagnano alle partite le dicono, le urlano per tutta la partita, scimmio, negra di merda, noi non c'entriamo, però attenzione. Però scrive sempre questo comunicato: altrettanto grave è stato il comportamento della giocatrice, che evidentemente non ha ancora capito come deve comportarsi, ma mi viene da ridere per non piangere, non ha ancora capito come deve comportarsi un atleta in tale occasione, e con ciò scadendo a livello di chi, come lei sostiene, perché lo sostiene lei perché gli altri non ha sentito, ad esempio l'allenatore della Comense, Loris Barbiero, ex giocatore, non ha sentito, ha detto io non ho sentito nulla. Queste sono le cose peggiori, perché la reazione addirittura peggiore di un'azione ignobile. Ebbene, se è stata offesa, come lei sostiene, ha reagito come non doveva, questo scrive il comunicato. Non finisco mai di sorprendermi, ma mi cadono come minimo le braccia, facciamo così. Andiamo negli Stati Uniti per parlare di basket, ma sul serio. Simone Sandri, buonasera. Buonasera, buonasera Carlo. Ciao Simone. Allora, griglia dei playoff, due italiani per la prima volta che partecipano alla corsa all'oro. Esatto, è abbastanza interessante questo, come si è un po' evoluto questo finale di regular season, perché sia Bellinelli che Gallinari arrivano in buona forma anche ai playoff. C'è stato un piccolo incidente di percorso ieri sera per Danilo, perché si è stortato la caviglia sinistra sul subito, e era stata una cosa un po' preoccupante, perché ha fatto un movimento strano alla sua caviglia, è tornato agli spogliatoi. E ovviamente Denver praticamente in questo momento non gioca per nulla, perché ha ormai praticamente sicuro della quinta posizione. È tornato negli spogliatoi, precauzionalmente non è più rientrato, rimarrà al palo anche lunedì, ma non è niente di grave. Io ho parlato ieri sera con Danilo, ha detto che non è nulla di grave, che può fare comodamente i movimenti laterali, quindi non lo rallenterà durante i playoff, ma è sicuramente stato un po' un campanello d'allarme, perché sarebbe stata veramente una disdetta se in questa interessantissima attesa di vedere due italiani dei playoff, certo, terz'ultima partita di regular season fosse stato un problema. Simone, come arrivano le grandi favorite alla vigilia di questa corsa al titolo? Chi sale e chi scende secondo te? Innanzitutto, considerato quello che è successo l'anno scorso, fare il borsino nel finale di regular season è sempre difficile, perché se consideriamo che Boston aveva un record di 17-17 nelle ultime partite di regular season l'anno scorso, e poi ha fatto una straordinaria cavalcata fino a gara 7 della finale dei playoff contro i Lakers, è difficile fare queste valutazioni. Sicuramente la squadra più in forma di questo momento è Chicago, che sta giocando un basket straordinario, ha senza dubbio l'MVP della Lega, che è questo Derrick Rose, che ha fatto una stagione assurda per un giocatore così giovane. Arrivano in forma con l'incognita però di una squadra giovane che ai playoff non ha ancora dimostrato nulla, per cui dovrà guadagnarsi un po' i galloni durante la post-season, che sappiamo essere un basket diverso da quello della regular season. Boston è una squadra di veterani che sta pagando un po' queste ultime 20 partite, anche questo trade un po' strano con Oklahoma City. E invece ad Ovest i Lakers hanno vinto 17 delle partite, 18 partite giocate dopo lo Star Game, poi hanno tirato un po' i remi in barca, adesso ne hanno perse 4 di fila, ma non credo che sia questo il messaggio di Phil Jackson e della squadra e della truppa di Phil Jackson andando ai playoff. Il messaggio vero è che i Lakers ci sono davvero, che sono secondo me comunque la squadra alla fine favorita al titolo. Quindi giocando a fare un po' Obama, che fa i tabelloni, da una parte vedi i Lakers a Ovest. A Ovest vedo i Lakers, perché San Antonio è abbastanza in flessione, secondo me nel matchup con i Lakers sfavorisce San Antonio. Paradossalmente forse Oklahoma City è la squadra che potrebbe più dare fastidio ai Lakers, anche se Oklahoma City giocherà un primo turno difficile secondo me contro i Nuggets di Danilo Gallinari. Secondo me questa è la serie forse più bella, Simone, al di là della presenza di Danilo. Sono assolutamente d'accordo, è assolutamente la serie più bella, con Denver che è in una forma spaziale, 17-6 dopo il trade di Carmelo Anthony, sta giocando un basket veramente bello. Oklahoma City è una squadra molto divertente, che gioca una pallacanestro altrettanto bella. Sarà una serie fisica, perché le due squadre comunque giocano un basket abbastanza fisico, e sarà la serie più bella. Credo comunque ad Ovest alla fine passeranno i Lakers, e ad Est secondo me Miami è una squadra che ai playoff ha dei problemi di matchup sia con Boston che con Chicago, per cui io immagino una finale di conference tra Chicago e Boston. Sarebbe bellissimo, anche perché insomma Miami, siamo tutti curiosi di vedere come va a finire questa storia. Ce la racconterà Simone Sandri nelle prossime puntate. Noi adesso chiudiamo qui. Giorgio Luca in redazione, Fabio Cantadori in regia restano, perché dopo dalle 8:30 alle 9 con i sottoscritti Dario Ricci sarà Palla a Spicchi. Ci sentiamo lì.